Ciao amici di Runtime di Ludico Forum, benvenuti in questa puntata un po' particolare dove abbiamo preso la live realizzata da Pixel Deb sul suo canale Pixel Deb. Quindi andate su YouTube, cercate Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, mettete like, commentate, aiutate quindi a indicizzare il suo canale e il suo lavoro. E quindi live fatto sul canale di Pixel Deb, condotto ovviamente da Deborah, con me come ospite, dove abbiamo affrontato le avventure grafiche in un arco di tempo dal 2010 al 2020. Ovviamente ci siamo resi conto che questo arco di tempo i prodotti c'erano tanti, molti li abbiamo sacrificati, però le cose da dire c'erano, le cose da raccontare c'erano, e quindi praticamente abbiamo deciso di suddividere praticamente questa live in due parti. Questa è la prima parte, buon ascolto e ci vediamo poi fra qualche giorno con la seconda parte. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Buonasera a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui con una bella livezza. Allora, serata importantissima, serata evento, insomma, siccome l'altra volta abbiamo fatto la serata delle avventure grafiche dal 2000 al 2009 e abbiamo confermato che la maggior parte fanno cagare, tranne qualche rara eccezione, questa volta invece vedremo quelle dal 2010 al 2019 con un ospite d'eccezione, ossia il mitico Simone Pizzi di Runtime Radio. Buonasera Simone. Ciao Deborah, grazie di avermi invitato. Ma grazie a te di essere qui, sono veramente onorata di averti qui con noi. Come ti ho descritto anche su Telegram, la voce più bella e profonda della radio. Grazie. No, ma io mi sono presentato così in maniera formale, proprio, visto? Grazie dell'invito. Buonasera. Hai visto? Quanta formalità proprio. Tutta insieme. Allora, intanto un saluto a Mattia. Buonasera Mattia. E ciao, allora ragazzi. Simone, raccontaci un attimo di Runtime Radio. Guarda, molto brevemente, noi abbiamo iniziato nel 2010, io e mia moglie, a fare un podcast, si chiama Di Tutto Un Podcast. Da lì in poi ci era piaciuta questa cosa, abbiamo fatto un altro podcast. Poi alla fine cominciava a aggregarsi gente, eravamo tanti che facevamo podcast e abbiamo creato un gruppo che si chiamava Italian Podcast Network, che oggi non esiste più, ma che è, diciamo... Runtime Radio, quindi quello che c'è oggi, è un po' la legacy, insomma, è l'eredità di quello che era quel progetto. E nasce come aggregazione di programmi in podcast e poi è diventato piano piano anche una web radio che ci tiene occupati 24 su 24 senza guadagnare soldi. Però, insomma, facciamo programmi di ogni genere, cioè una volta facciamo molto più sulla tecnologia e i videogiochi, oggi facciamo programmi di vario genere, insomma. Sì, un po' di tutto, proprio dall'informazione, le notizie dal mondo, una più allegra dell'altra, sempre, insomma. Certo, e poi anche le serate fino a notte fonda, Runtime by Night, un sacco di cose veramente, e sempre divertenti. Sì, però poi, anche molto studiate, insomma, anche con Carlo avete fatto tante cose sull'informatica, sulla storia dei videogiochi e non solo, insomma, quindi tanti bei programmi. Sì, diciamo che ci sono alcuni programmi che sono storici, tipo archeologia videoludica, archeologia informatica, che ormai fanno parte un po' dello storico del podcast italiano da quel punto di vista, insieme ad altri podcast, però... E poi vabbè, abbiamo fatto, come hai detto te, anche programmi notturni dove si parla, dove ci sei stata anche tu, quindi... Eh sì. Abbiamo fatto anche una serata speciale sul nuovo Monkey Island quando stava per uscire. Ah già, hai ragione, che tristezza. Vabbè, quindi praticamente trovate veramente di tutto su Runtime Radio, sempre insomma con persone professionali e simpaticissime soprattutto, quindi vi fanno grande compagnia. Guarda, l'unica cosa che posso dire è che se andate su Spreaker.com, scrivete nella ricerca Runtime Radio, trovate ovviamente il network di Runtime Radio con tutti i podcast e lì ne scegliete uno, o se no runtimeradio.it e ascoltate la radio quando volete senza problema, c'è sempre qualcosa, insomma, Runtime Radio. E infatti in descrizione trovate anche il link della radio, insomma, quindi quando volete potete cliccare lì e lo trovate lì, insomma. Bene, intanto buonasera The Rising Sun, ciao, buonasera. Allora, quindi, serata avventure dal 2010 al 2019, che do per scontato, insomma, che siano migliori di quelle precedenti, ma non è che ci vuole tanto, onestamente. Perdonami. Non in tutti i casi, però. Non in tutti i casi, però diciamo la maggior parte delle avventure uscite in questo periodo sono state buone, e soprattutto vedo proprio una differenza abissale sia di storia, di sceneggiatura, confronto a quelle del decennio precedente, e soprattutto della logica usata per risolvere i vari enigmi, cosa che proprio nulla, tranne, ripeto, qualche rara eccezione, dal 2000 al 2009, insomma. Tu che ne pensi di questo quasi decennio? Del decennio precedente ne avete parlato, di questo qui diciamo che prende comunque dalle radici tradizionali dell'avventura grafica, si va verso una sorta di miscuglio, diciamo così, di miscellanza, diciamo, di generi, creando secondo me poi alcuni generi che non sono forse neanche più definibili avventure grafiche nel senso più tradizionale, ma proprio entra proprio a piedi uniti il genere dell'avventura narrativa con varie declinazioni, e diciamo che c'è stata più evoluzione, no? Però come vedremo poi non in tutti i casi, perché c'era un po' questa ostinazione di voler fare l'avventura classica punta e clicca, nuda e cruda, proprio classica, che forse a fronte insomma di un'epoca in cui magari, ne so, i tempi sono cambiati, i ritmi sono cambiati, diventava un po' più complicato, anche se ci sono anche delle belle perle, insomma. Comunque è stato un decennio interessante di transizione, ecco, lo possiamo definire così. Sì, infatti secondo me anche molte innovazioni in questo decennio, cose che magari in quello precedente, ma ti dirò, forse salti di qualità grafica più che altro, no? Si è andato sempre più al 3D, anche se è un 3D brutto, insomma, però questo forse è più innovativo come vari tipi di genere di avventura, sono d'accordo. Comunque intanto saluto anche Simone, e dice che la live singhiozza, ma la regia non mi sta dicendo niente, la live singhiozza? Gabriele? La live singhiozza? Sì. È spento Gabriele, singhiozza lui, ma sa. La regia nel frattempo. Che singhiozza. No, non sta singhiozzando, mi ha detto. Anche io lo vedo bene, Simone, prova a refresciare la pagina, magari te sarà un po' rimbambito, insomma. Guarda, anch'io lo vedo bene, cioè nel senso vedo particolari buffering o cose particolari, insomma. Certo. Anche The Rising Sun ha detto che sta va bene. Ok. Sì. Va bene, d'accordo. Quindi abbiamo fatto questa piccola introduzione, adesso vedremo insieme se obiettivamente questo decennio è stato interessante o meno, quindi aspettiamo anche le vostre opinioni come sempre lì in chat. Allora iniziamo nel 2010, signori, con appunto un'avventura veramente innovativa che poi insomma da qui è veramente nato un genere, anzi in verità l'abbiamo già visto, il primo che ha fatto nascere questo genere, che è stato Fahrenheit, l'abbiamo visto in quella precedente di live. E poi dopo Fahrenheit c'è nel 2010 Heavy Rain, e quindi qui veramente c'è molto da dire, perché nasce un po', ripeto, prima da Fahrenheit, ma qui forse in maniera migliore, il film narrativo, no? Cioè nel senso un gioco, però che alla fine è quasi un film, tu fai delle scelte, a seconda di queste scelte poi cambi determinate cose, ti possono morire anche male i personaggi. Mi ricordo quando ci ho giocato io, uno è morto malissimo, ho fatto veramente una brutta fine. E però sì, cioè qui inizia a essere veramente la trama, la base del gioco, e le nostre scelte che poi cambiano determinate cose. Hai giocato te, sì, Heavy Rain? Sì, sì, parlare di Heavy Rain non è facile, perché è un prodotto complesso, diciamo che anche questo prende a mani basse, insomma, da precedenti sperimentazioni, dai film interattivi anche gli anni 90, a Fahrenheit, come detto te, che è il predecessore, perché è sempre un'opera di David Cage. È un'opera che non è riuscita completamente bene, però diciamo che questa impostazione da narrazione interattiva cinematografica, diciamo che ha dato veramente il via poi secondo me a progetti successivi che sono andati sempre via via migliorando. Io ci ho giocato anche mia moglie, l'ha fatti morire tutti mia moglie, quindi specificare questa cosa che è importante. E c'è una scena bellissima della giornalista quando sta investigando dentro la casa di un tizio, che a un certo punto la casa prende fuoco e lei può scegliere se nascondersi dentro il frigorifero Indiana Jones, ci Indiana ridiamo. Jones style, infatti. Esatto. O se buttarsi dalla finestra, e mia moglie si è buttata dalla finestra, giustamente. E quindi è morta male, sfracellata, insomma. È morta malissimo, insomma. Questa cosa che sono morti tutti i personaggi mi fa ricordare Mauro, che invece quando ha giocato a Detroit Become Human, e quindi stiamo sempre qua, insomma, non so se è sempre Quantic Dream anche di Detroit, eh? Eppure lui mi fa, io li ho fatti morire tutti, ho riso tipo mezz'ora quando mi ha detto. Cioè, e secondo me è difficile anche farli morire tutti. Ah, non farne morire nessuno è complicato, ma farli morire anche tutti non è facile, secondo me. Sì, diciamo che la cosa triste in Heavy Rain, come tutti i giochi di David Cage, c'hanno sempre questi drammi molto umani, sempre questa cosa dei bambini in qualche maniera messi in mezzo, che secondo me denotano poi il fatto che evidentemente deve essere un qualcosa che a lui lo tocca particolarmente. E quindi il fatto di Heavy Rain, il fallire in Heavy Rain significa poi far morire il bambino, no? Questa è un po' la cosa più drammatica. Ricordiamo anche Heavy Rain perché è stato, diciamo, molti dicono che è stato il primo videogioco dove c'è una scena di sesso. In realtà non è vero. Fahrenheit invece già c'era, l'abbiamo già parlato la settimana scorsa, infatti, che a Fahrenheit c'erano scene un po' piccantelle. E io mi ricordo, insomma, sulla PlayStation 2 ho fatto, ma questi stanno a fare roba, capito? Così quando ho giocato. E tu devi fare anche i quick time, capito? È quella cosa. Devi fare i quick time, esatto. E quindi qui l'hanno estesa, una cosa che poi è diventata molto più standard, no, nei videogiochi, perché nella ricerca di una narrazione matura bisognava metterci il sesso, perché secondo loro era... Però, perché vabbè, fa film, no? Perché per essere sempre più film hanno dovuto anche mettere la scena d'amore, insomma, per coinvolgere di più lo spettatore, probabilmente, non lo so perché, però magari quello. Come nei film, comunque, che manca mai la scena di sesso, no, insomma, stessa cosa. Sì, no, comunque buchi di trama a parte, io lo consiglio proprio perché secondo me ha dato la possibilità ai giochi successivi di migliorare laddove ovviamente è mancato Heavy Rain, che c'ha, insomma, diciamo, a livello di plot delle difficoltà a un certo punto, insomma, diciamo. Sì, a me onestamente non mi ha fatto impazzire. Adoro questo genere di giochi tantissimo, sì. Però l'ho un po' dimenticato, onestamente. Ho preferito gli altri successivi. Come mi era piaciuto tantissimo Fahrenheit all'inizio, ma come ho già detto la volta, poi l'altra volta ha una certa svacca e il finale è orrendo. Questo qui mi è rimasto veramente poco impresso, anche se è molto famoso, molto apprezzato, mi ha colpito poco. Ho preferito i titoli successivi, onestamente, a questo qua. Sì, Fahrenheit, ti ricorderai che a un certo punto, cioè io mi immagino questa scena dentro la sala dove ci sono i sceneggiatori, che a un certo punto dicono, ma sì, ma buttiamoci dentro le intelligenze artificiali, ma sì, buttiamoci dentro l'alieni, ma sì, tutti a casa dei cani. Ma sì, mettici i bambini indaco buttato lì. Esatto, è tutto, cioè a un certo punto ci hanno messo di tutto e ovviamente diventa una porcata, considerando lui che, cioè lui alla fine salva il mondo ma è uno zombie, cioè nel senso, è una cosa, no, un po'... Comunque, cioè, la cosa bella secondo me è che secondo me in questa sala, mentre stanno decidendo come facciamo andare avanti la storia, cioè, tipo un cilindro, no? Ognuno mette un'idea in un foglietto, poi la prima che tirano fuori bambini indago o alieni, capito? Cioè così, esatto, secondo me è così. Comunque l'ultimissima cosa su Heavy Rain, sì, che al di là del fallimento, diciamo, da un punto di vista narrativo, invece la cosa che ha funzionato è la cosa dei quick time event, che ti mettevano l'ansia, perché lì in realtà lo scopo del gioco era quello di farti immergere nelle varie situazioni, no? E per esempio, se tu pensi alla scena di lui che cammina nel vetro, oppure lei che si deve nascondere nell'armadio, tutta una serie di situazioni che poi ovviamente sono state migliorate come meccaniche, però ecco, diciamo, Heavy Rain in questo secondo me ha funzionato. Sì, infatti secondo me è molto importante, non poteva mancare in questa lista, a mio avviso. Comunque leggo un attimo qualche commento. Allora, Mattia dice: il migliore di David Cage, poi il declino. Solo a pensare al senso cinematografico senza scrivere una discreta sceneggiatura. Poi vabbè, lasciamo stare l'interattività. Quindi l'interattività, insomma, a lui non è piaciuta tanto. Invece The Rising Sun dice: tutti i prodotti di David Cage hanno grossi problemi, secondo me. Poi c'è Gabriel, vabbè, che dice Sean, perché non so se tu c'hai presente il famosissimo bug che ogni volta che lo vedo mi fa ride. Per chi non lo sapesse, praticamente il figlio di questo protagonista qui che vedete adesso si chiama Sean, e in tutto il gioco lui deve trovare sto Sean perché è stato rapito, succedono cose, insomma, vabbè, e cerca sto ragazzino. Verso la fine, quando trova il ragazzino, c'è questo bug che potete trovare su YouTube, insomma, di lui che inizia a urlare Sean, e mentre il gioco continua ad andare avanti, cioè fino al finale gli si è buggato il protagonista che qualsiasi cosa sta facendo fa Sean, Sean, cioè bellissimo. Quindi per me V-Rain è Sean il bug. Io mi ricordo la scena del, all'inizio, la prima scena al centro commerciale, che tu premevi X e lui faceva Sean, Sean, e quindi praticamente se tu volevi fare il cretino, cioè, e poi lui con la voce di Pino Insegno, capito, che aggravava un po' la cosa, insomma, nel senso, grande che, voce quella di Pino Insegno, bravissimo doppiatore. A me piace, però secondo me non è stato d'altezza lui in quella specifica in occasione. Ruolo. Beh, forse più al cinema, insomma, più nei film. Sì, ah, poi intanto buonasera anche a Paride, ciao, buonasera. E invece Mattia dice: ne parlammo già, secondo me va di gusti e preferenze sui temi, ma questo aveva una sceneggiatura leggermente superiore agli altri. Detroit si salvicchia un po', ma il tema Android è abbastanza cliché. Invece io, sai, ho preferito Detroit. Detroit mi è piaciuto veramente tanto, mi ha coinvolto parecchio, i personaggi pure mi sono piaciuti tutti i personaggi, quindi quello mi è rimasto più impresso, anche se l'ho giocato da, insomma, un periodo più recente confronto a questo. Però mi è piaciuto di più a me. Poi c'è Frankie, buonasera, che dice: domani se la vede in replica la live, va bene. E The Rising Sun dice: secondo me anche Detroit Become Human ha grossi problemi di sceneggiatura. E ripeto, a me quello invece non è dispiaciuto, l'ho trovato onestamente superiore a questo qua. Allora, diciamo che tutti i giochi di David Cage hanno un problema di sceneggiatura, soprattutto dalla metà in poi, compreso, come si chiamava quello del fantasma lì, adesso non mi ricordo. Beyond, vabbè. Two Souls. Bravo, esatto. Ah. E a un certo punto lì, se tu ti ricordi, ci hanno messo la base cinese sotterranea, così proprio... Ma io mi ricordo una certa, ci sono pure i Navajo, ci stanno i Navajo, quelli lì, sì, indiani. Sì, cioè a un certo punto loro ci mettono tutta una serie di cose. Diciamo che mentre che Detroit, secondo me, non è, forse non emerge particolarmente come sceneggiatura, ma almeno nella sua linearità è pulita, nel senso non c'ha grosse. E invece, ecco, insomma, Heavy Rain e gli altri, compreso Fahrenheit, ovviamente ci hanno ste svariate a un certo punto di sceneggiatura che, e comunque considerate che un gioco con tutte queste possibili variazioni solo, scusami, grazie a Yuza 850 per essere diventato follower, grazie mille, benvenuto. Dai. Benvenutissimo, vai, dimmi. No scusa, grandi no, dicevo che non mi ricordo più. Vabbè, comunque, allora, praticamente secondo The Rising Sun Connor è il personaggio riuscito meglio. Connor è un gran personaggio, mi è piaciuto tantissimo anche a me. E Parida dice: ragazzi, ma ci saranno spoiler, perché alcuni di questi non li ho giocati. Allora cerchiamo di non spoilerare, no. Cioè raccontiamo, no, magari un po' la trama senza però spoilerare. Ah, e Parida e Yuza, ok grazie. Grazie mille. Beyond Two Souls hanno provato a mettere 2000 cose in un solo gioco. Sì, cioè secondo me c'è sempre lo stesso problema del parte bene, tutto fighissimo, poi una certa svacca. Però come ha svaccato Fahrenheit, secondo me non ha svaccato nessun altro a quel livello. Sì, ma perché lì ci potevi anche mettere un po' l'immaturità, no? Cioè nel senso l'inesperienza. Primo gioco, sì. Poi dovete considerare che secondo me questi giochi con tante variazioni interattive... A livello di scrittura, cioè, secondo me a un certo punto è vero che hanno dei schemi scientifici fatti in una certa maniera, però cioè, è facile perdersi nella narrazione di quel tipo. Però dai, almeno evita di non metterci 50.000 cose, insomma, diciamo così. Vabbè, comunque Heavy Rain, giocatelo, ragazzi. Gabriel dice che Cage praticamente è intelligente ma non si applica. Sì, anch'io lo penso. E buonasera Inspi, buonasera Inspi, Beyond Elliot. E va bene, passiamo oltre, che qua ci sono troppe chiacchiere, inizio già a tagliare qualcosa di tagliabile, quindi direi di passare al gioco che abbiamo iniziato ieri in live, signori. A New Beginning. Allora, io con la Daedalic, se mi seguite, sapete che non vado d'accordo assolutamente, perché hanno un modo di proporre i giochi che sono o un tipo di commedia che a me non fa ride, cioè a me Deponia mi dà il nervosismo, non mi fa ride quel tipo di commedia, mentre ad esempio Gabriel li adora, li ha giocati tutti, e oppure storie che non mi appassionano, mi annoiano, tipo The Whispered World, tipo The Night of the Rabbit. Li ho giocati un po' quelli della Daedalic, ma tendenzialmente o li trovo noiosi o li trovo stupidi. Questo invece, signori, è nella mia top 10 di avventure proprio preferite in assoluto, e secondo me è il gioco Daedalic che è stato meno considerato dalla gente, insomma è passato un po' più in sordina a mio avviso, Però è un peccato perché al di fuori che ieri in live questa Final Cut abbiamo visto che c'ha qualche bug, cosa che invece quando io ho giocato a New Beginning, quello base, non mi ha dato alcun problema. Infatti ieri sono rimasta un po' così. È bello il disegno, è bello il fatto che sia molto fumettoso quando racconta la storia, e la storia è bellissima, cioè è molto attuale, molto realistica. Quindi praticamente la storia, senza spoiler insomma, parla del fatto che nel futuro la Terra sta morendo malissimo, insomma gli esseri umani sono rimasti in pochi, gli animali sono morti, la natura praticamente è devastata a causa del cambiamento climatico, quindi è un discorso attualissimo. E quindi ci può essere però un modo per salvare ancora il pianeta. Quindi onestamente anche l'argomento è molto maturo ed è sviluppato bene, ed è sviluppato anche in modo che non sia noioso, insomma, anche se è un argomento di insomma una certa serietà, però è carino, è bello, è coinvolgente ed è bello il disegno. Quindi io non capisco onestamente perché questo gioco non se lo caghino in tanti per farla breve, insomma. Allora, intanto non facciamo spoiler, la bambina muore alla fine. La bambina che non c'è poi, perché... Esatto, però io lo dico sempre. La bambina muore, qualsiasi... la bambina c'è, una bambina sì. Muore. Così parla il film, è una bambina muore. Comunque, sono d'accordo al 100% con quello che hai detto te relativamente a The Dalek, che bisogna dire anche che loro sono nati come autori di avventure grafiche tradizionali, poi sono diventati anche publisher, quindi hanno fatto una sorta di evoluzione. Nella fregola di produrre tante cose, hanno prodotto secondo me alcune cose trascurabili, soprattutto The Night of the Rabbit, Whispered World, che insomma sono veramente delle palle infinite. Mamma mia! Ma proprio, cioè, da crocefigge da soli praticamente. Eppure io... In sala mensa. Esatto. E secondo me a New Beginning c'è avuto il problema che forse è uscito quando ancora loro non avevano grosse risorse anche promozionali. Forse, diciamo, la indico così. È vero pure che è la più tradizionale tra le avventure. Poi vabbè, insomma, no, forse anche le altre sono abbastanza tradizionali. Non me lo so spiegare neanche io, però devo dire che all'epoca se ne parlò molto nei siti specializzati in Italia, su Adventure Planet. Insomma, fu molto caricato, diciamo, dalla distribuzione. Sì, era anche stato prodotto qui in Italia da Adventure Planet, l'hanno portato loro qui. Sì. Edito in Italia da Adventure Planet. E quando c'era il Zodiac, no? Che loro era lo store loro. Sì, lo store Zodiac, sì. Che niente. Poi l'hanno chiuso e io c'avevo i crediti dentro. Dice, ridatemi i crediti. No, vabbè, scherzo. Allora, The Rising Sun comunque dice: molti attori di Detroit si sono lamentati di come lavora Cage. Quindi anche gli attori hanno visto vari buchi di trama, varie svaccate, probabilmente. E Paride dice: Deponia li ho finiti facendo davvero un grosso sforzo, ma anzi che sei riuscito a finirli, perché io ho iniziato il primo dopo un po' ho pensato: oddio, ma chi me lo fa fare di giocare con questo che fa queste battute veramente tristi? Non ce la faccio. Io non lo so se l'ho finito il primo Deponia, perché io Deponia in generale, tutta la saga di Deponia, forse il primo l'ho finito, però ti dico forse perché manco me lo ricordo, perché proprio per me, se non l'avessero mai, addirittura fanne 4, evidentemente alla gente gli è piaciuto, io su questo alzo le mani, cioè nel senso, se vi piace. Beh sì, comunque è stata una successione, ripeto, Gabriel, che non è che è grande giocatore d'avventure grafiche, un po' le ha fatte, un po' le ha fatte con me, lui sbabamba, si è giocato tutte e quattro, bellissimo, si è divertito un sacco, risate, cose, io mi guardavo, dicevo, vabbè, bella per te. Buonasera Devil, intanto buonasera. In Speed dice: a New Beginning è serio, la gente vuole ride, per quello se lo sono filati in pochi. Però per dire, un Night of the Rabbit, un Whispered World, quelli sono veramente una palla colossale, e manco se ride manco lì, anche perché pure lì gli argomenti poi sono comunque abbastanza seri, soprattutto Whispered World. Quindi perché, se quelli sono comunque una palla e sono pure gli stessi creatori, hanno avuto successo e piacciono, e questo non se lo caga nessuno tranne io, Mattia e a quanto pare anche Simone che ci ha giocato, quindi cioè perché? Sì, poi tra l'altro Whispered World è proprio triste, proprio, mamma, cioè, mia, se... mamma mia, la creatura che è triste, è fatto così, quella è la sua storia, quella è la sua narrazione, il personaggio principale è forse la cosa più triste che abbia mai visto, quindi cioè, mi domando, sì, in effetti, ma io non penso neanche che sia solo il fatto che la gente vuole ride, perché in realtà ci sono avventure anche serie che poi alla fine comunque hanno riscosso successo, alcune le hai portate pure te, no? Ah, beh, io porto sempre la tragedia perché a noi piace la tragedia, non so. Poi dopo, dopo in lista ce n'è uno che, ragazzi, ha menato. Io quando ci ho giocato ho detto, cioè, ho alzato le mani, insomma, poi dopo ne parliamo. Comunque, bello, bello. Forse, io, ecco, sono contenta, diciamo, che a qualcuno piaccia, perché sta avventura è bella. Sì. Mattia dice non gli piace lo stile grafico, invece a me piace proprio tanto, insomma, soprattutto la versione fumettosa, quindi a me è piaciuto molto. Simone dice non solo cagano perché è pieno di bug, ma è piena di bug la Final Cut, non ho capito perché è piena di bug, oppure a me su Steam è pieno di bug, non lo so, infatti sono rimasta un po' perplessa onestamente ieri. Gabriel dice io mi sto sentendo male dato che sente parlare male di Deponia. Ti ho detto, a lui piace. The Rising Sun dice in questo discorso parliamo anche delle viso 9 più moderne. Guarda, stasera è dal 2010 al 2019. Visual novel forse non stanno in lista, no, non credo, non mi sembra, perché veramente ci sono così tanti giochi che uno deve fare una cernita e alla fine siccome noi parliamo tanto poi facciamo la cernita della cernita. Esatto, la cernita fa un'altra cernita e facciamo la cernita dalla cernita, e quindi parleremo delle cose un po' più importanti o magari, ecco, tipo questa che a me dispiace che abbia avuto poco successo perché la trovo una gran bella avventura. Va bene, va bene, passiamo oltre. Yep. Allora, abbiamo giocato anche questa in live, signori, e l'abbiamo giocata qualche mese fa, è l'avventura preferita di Nico, che però questa sera ancora non c'è. E infatti quando l'abbiamo giocata lui c'era, insomma, perché gli piace tantissimo. E c'è da dire che io me la ricordavo meglio. Ci ho rigiocato qualche mese fa con voi e onestamente, al di fuori della musica che trovo bellissima e dei disegni pure che non mi dispiacciono, ho trovato, insomma, un po' così, non mi ha convinta del tutto. E sto parlando di Grey Matter, quindi la mitica Jane Jensen, insomma, che nel 2010 ha tirato fuori Grey Matter. Tu l'hai giocato? A parte che io ho un odio ponderale incontrastabile proprio nei confronti della Jane Jensen, e questo chi mi conosce lo sa, e quindi in generale a me non piacciono i personaggi che costruisce. Mm-hmm. E anche la nuova versione di Gabriel Knight che ha fatto nel remake del primo, io lo trovo, a parte completamente diverso da come me l'ero immaginato io il personaggio nel primo, quello storico, insomma, vecchio vecchio. E poi questo atteggiamento così un po', boh, non lo so, non mi piace, è tutto così da romanzino rosa, da personaggio un po', boh, adolescenziale. Allora, a me l'avventura di per sé non mi è dispiaciuta, però io, a me, perché io poi alla fine ho questa cosa antropologica che devo studiare tutto, analizzo tutto e quindi porto a termine, se ce la faccio, le cose anche se non mi piacciono. E a me, io purtroppo, cioè, e dopo c'è anche Erika Reed, no? Quindi sono alla fine sempre roba prodotti, sempre roba di Jane Jensen, cioè, alla fine, sempre made in Jane Jensen proprio. Io non ho mai capito tutto questo amore incondizionato che la gente c'ha per lei come autrice, insomma, quindi. Allora, guarda, noi abbiamo recuperato il primo Gabriel Knight ormai un anno fa più o meno in live. Io non ci avevo mai giocato, era una serie che non ho mai giocato e mi dispiaceva non averlo mai provato, perché comunque nelle avventure grafiche è una serie importantissima, no? E quindi ho approfittato per giocarlo in live con voi, alla versione però quella storica. Mi hanno detto, sì, no, non gioca a quella, al remake, giochiamo a quella storica che è più bella. E che è anche doppiata in inglese, ci sta Tim Curry che fa Gabriel Knight, lo doppia lui. E ti posso dire che mi è piaciuta molto a me la prima avventura di Gabriel Knight, non pensavo mi sarebbe piaciuta così tanto e ho avuto un ottimo feedback, insomma, da quel gioco e sono molto contenta di averlo recuperato. Vorrei fare anche il secondo, anche se poi, avendo cambiato PC, praticamente io ho la versione col disco perché lì è in italiano mentre qua si trova solo in inglese e quindi poi non l'ho fatto ancora, però mi piacerebbe giocare anche il secondo in live con voi. Il primo a me è piaciuto veramente molto, cosa che invece Grey Matter ad esempio a me non ha coinvolto tanto quanto mi ha coinvolto invece il primo Gabriel Knight. L'ho trovato proprio di un altro livello, sia i personaggi, la storia, tutte le... poi c'erano un botto di cose da fare, poi era complicato, insomma, perché comunque un gioco vecchio era complicato, non come quelli di adesso che comunque sono molto più fattibili. E però ho trovato proprio tutto un altro tipo di fascino. Poi vabbè, io sono fissata con i pixel, come sapete, e quindi quella grafica tutta pixellosa, che però era tutta dettagliata, c'erano i primi piani del museo Voodoo, insomma, che era molto bello. Quindi io ho apprezzato molto molto quello. Le altre avventure di Jane Jensen però anche io faccio fatica, cioè nel senso, questa l'ho giocata, sì, l'ho conclusa anche un paio di volte, ma non mi ha lasciato niente al di fuori della musica e dei disegni, come dicevo. Però ci sta un'altra che io ho, ma l'ho solo iniziata, ho giocato un paio d'ore, ma mi sono fatta due palle così grandi che ho detto, ma per chi me lo fa fa? Che si chiama Moebius, mi sembra, sì, sempre da, sì, da suo, che sì. Madò, ho detto no, ma chi mo fa fa? Guardate, io penso che la Jane Jensen abbia vissuto di rendita del primo Gabriel Knight, che è un capolavoro, oggettivamente un capolavoro. Mi è piaciuto tanto, sì. Anche se allora le avventure Sierra, dal punto di vista narrativo, erano abbastanza potenti, c'era questo, c'era Laura Bow, c'erano tutti quelli, insomma, anche sui gialli, no? E alla fine, bene o male, era difficile che all'epoca uscissero proprio delle cose. Però lei, ecco, secondo me col primo Gabriel Knight ci ha vissuto di rendita tantissimo. Praticamente ha avuto così tanto successo con quel gioco che dice ormai una cosa col nome Jane Jensen, allora è bella, a priori, insomma. Un po' così. Sai, poi lì si è messa a fare la scrittrice con uno pseudonimo che scrive sti romanzetti. Romanzetti rosa, come dicevamo prima. Sì, però è una cosa un po' strana, perché sono un po' tutti un po' particolari, che insomma non, ecco, insomma, tipo Scartando Hank, questo è il titolo di un Scartando Hank. Sì, praticamente è tutte storie, cioè nel senso un po' promiscue, cose che per carità, a me non c'ho assolutamente niente in contrario, però cioè è proprio questo andare a marcare sempre su questi personaggi così un po' efebici, un po' particolari, che sì, una volta, due volte, tre volte, alla fine, quando tu hai costruito tutta una carriera su questo tipo di personaggi qua, alla fine o ti rivolgi a un certo tipo di specifico pubblico, o se vuoi parlare a tutti devi parlare a tutti, perché sennò poi alla fine uno dice oh, ciao bella, ciao. Dice sì, è una certa, insomma, cambiamo anche argomento, insomma, cambiamo un po' stile, anche un po' stile, sì. Comunque, leggiamo un attimo i commenti. Allora, Devil dice: questo lo deve recuperare. Vabbè, ripeto, secondo me se gioca, cioè se lascia giocare, però a me non ha lasciato molto. Tranne, ripeto, la musica che io metto sempre. Il team di David è stupendo. Paride dice: un altro gioco che ho in libreria, ok. Simone, che ha seguito la live, dice: discutibile questa materia grigia, quindi anche a lui non ha fatto impazzire. Mattia dice: vabbè, Gabriel Knight 1 è qualcosa di ancora non raggiunto. Sì, secondo me no. Gabriel Knight 1 è stato veramente un gran gioco. Anche a Simone è piaciuto, viva Gabriel Knight, mille volte meglio. E Mattia dice: Jane Jensen è stata la prima a saper scrivere le sceneggiature, i dialoghi molto bene, anche quando prima le avventure erano narrativamente deboli, andando avanti solo di enigmi. Quindi sì, forse magari lei ha avuto successo perché è stata la prima donna che ha fatto delle sceneggiature di un certo livello nelle avventure, può essere anche questo. Diciamo che lei era più strutturata narrativamente, anche proprio professionalmente, no? Quindi questa cosa dalle avventure, che una volta tutto, prendi King's Quest, no? King's Quest il primo è un'avventura Sierra dove c'è il tizio che diventa re perché recupera quell'oggetto magico, cioè alla fine erano tutte fiabe messe insieme e raggruppate da una serie di enigmi che tu dovevi fare, ovviamente. Invece Gabriel Knight ha portato l'avventura grafica dal punto di vista narrativo a un altro livello, questo sicuramente. Però se tu vedi gli ultimi personaggi che lei ha fatto, da Moebius a appunto la tipa di Grey Matter, a Erica Reed, roba genere, non li vedete? Cioè che so tutti uguali, cioè so tutti lo stesso personaggio, tutti con lo stesso approccio, con lo stesso atteggiamento, con lo stesso modo un po' snobboso, capito? Così a me, capuzza sotto al naso, brava esatto. Sono costruiti così perché a lei gli piacciono così, evidentemente. È probabile, sì. Quello di Moebius, calcolo, è veramente non classificato, secondo me è tipo Medioman, cioè tu lo guardi, è un personaggio qualsiasi, è un NPC di qualsiasi videogioco, cioè non ti rimane impresso. Questa di Grey Matter è già più particolare, no, come è fatta la fisionomia, ok. Quello di Moebius è veramente Medioman, cioè non lo so, tu dimentichi sì, poi, dopo due secondi. E lì poi c'è un problema proprio tecnico, nel momento in cui lei, senza risorse, con la sua software house, ha provato ad andare nell'ambito del 3D, diciamo così, poi 3D parzialmente, e quindi ovviamente lì poi si vedono tutti i limiti tecnici di una produzione che non aveva le risorse, insomma, perché poi alla fine, cioè, lui è un po' sproporzionato, è strano proprio come è fatto, capito? Cioè, nel senso, però vabbè. Beh sì, secondo me Grey Matter, anche graficamente parlando, è fatto meglio di Moebius. Carino, soprattutto certo. Gli scenari, non tanto i personaggi, quanto vedi le foto degli scenari, sono belli, insomma, sono molto dettagliati. E anche, ripeto, i disegni, nelle scene di intermezzo che sono disegnate, io l'ho trovato sempre molto belli. Quindi artisticamente parlando, Grey Matter secondo me è un bel gioco. Però a me non mi è rimasto impresso, diciamo, tutto qua. Vabbè. Intanto Nico, buonasera, hai visto, sei arrivato con la tua avventura grafica preferita. E infatti anche Nico dice, ora la Jensen scrive libri sotto un altro nome, vedi. Eh beh, come abbiamo detto, sì. Eh sì, i romanzetti, rosa là. Va bene, passiamo al 2011, signori, taglio anche qui. E però vado a questa avventura che io ho giocato tanti anni fa con Gabri e ci è piaciuta molto. Si chiama Gemini Rue, della Wojet Eyes sono gli editori. E questa è molto pixellosa come avventura e, se non sbaglio, anche futuristica, però un po' noir, quindi c'era questa atmosfera, sai, piovosa, un po' buia, un po' Blade Runner, che però ci crede un po' di meno, secondo me, del Blade Runner. Blade Runner ci crede di più, insomma. E questa è una bella avventura, infatti ho pensato di giocarla insieme, perché pure questa, secondo me, tanti non la conoscono. Tu l'hai giocata, la conosci? Allora, sì, e mi è piaciuta tantissimo. È bella. Aggiungo il problema dei giochi della Wojet Eyes, che poi alla fine è sempre lui da solo che fa tutti i giochi, no? Adesso non mi ricordo come si chiama il tizio. Qua dice sviluppatore Joshua Neuernberger, dovrebbe essere lui. Per i giochi fa solo lui, cioè, nel senso, quindi, infatti, più o meno all'inizio, poi alla fine lui era da solo. Cioè, però comunque, l'unico problema vero è che non nessun gioco, se non sbaglio, è tradotto in italiano, neanche coi testi. Quindi dovete un po' essere addomesticati, diciamo, con l'inglese. Però è veramente una bella avventura, fantascientifica come ambientazione, però poi fondamentalmente è un noir investigativo. È bello, bello, mi è piaciuto veramente tanto. Lo consiglio se non l'avete mai giocato. Beh, poi considerando se è fatto da una sola persona, tanto di cappello, insomma, cioè, anche la pixel art a me piace molto. Bello, bello, mi è piaciuto. La pixel art mi ricorda un po', vedi, soprattutto questa immagine qua, questa così, Beneath a Steel Sky. Beh, probabilmente, magari ha ripreso un po' quello stile. Che poi più o meno l'ambientazione è abbastanza simile, perché sempre quel cyberpunk un po', capito? Cioè quel futurismo un po' sì. Sì, un po' futuristico, un po' detective, un po' quello. Diciamo steampunk, va. Ecco, che vogliamo. Però diciamo che secondo me queste grandi avventure, quelle storiche, in qualche maniera hanno fatto da ispirazione un po' a tanti, e poi alla fine successivamente, se vai a vedere, tante cose le ritroviamo, senza dover chiamare in causa ovviamente Monkey Island, che è stato il gioco più copiato della storia dell'umanità, quindi neanche ispirato proprio della storia dell'umanità, sì, non della storia delle avventure, proprio dell'umanità. Anche basta, insomma, basta citazioni su Monkey Island, basta. Sì, ma poi se tu ti ricordi, c'era un certo punto che cominciano i giochi pirati, Fantasma dei Caraibi, Ghost Pirates of Voodoo Island. Ma basta, no, cioè, ragazzi, basta pirati. Basta citazioni di Monkey Island, basta. Bravo. Per quanto io lo ami, basta, insomma. E allora vediamo un attimo i commenti. Nico dice: sì, me lo ricordo, Gemini aveva anche delle fasi d'azione. Sì, esatto, c'erano delle piccole fasi d'azione che, insomma, dovevi sparare. E a me stanno un po' sui coglioni le fasi d'azione, onestamente, in queste avventure grafiche proprio punta e clicca. Non le apprezzo tantissimo, però vabbè, non sono tante, se possono fare. Infatti, ecco, abbiamo visto adesso, poco fa, un momento action nel gioco, però è fattibile. Mattia dice: ennesimo gioco da giocare da anni, forse pure preso in qualche bundle. Questo recupera, Mattia, questo è un bel gioco, non te ne pentirai. Parida dice: la parola pixellosa mi fa sempre ridere. Simone dice: a me ricorda Putrella. No, questo è molto meglio di Pudrella, per carità. Pudrella è coso... Prisoner of Ice. Ma lo sapete voi, il vantaggio dei giochi da Wedget Eye secondo me in generale è il fatto che sono tra virgolette brevi rispetto a tante altre avventure, tipo ecco proprio Whispered World ad esempio, che duravano un infinito. Tu a un certo punto arrivavi a un punto, vabbè, è quasi finito, invece no, c'era ancora 4, 5, 6 ore di storia, capito? Quindi, invece questi sono tutti molto più concentrati, quindi la storia te la godi anche di più da quel punto di vista. Non costano tanto, finiscono spesso nei bundle, appunto, come diceva l'amico prima, che adesso non ricordo chi. E così, insomma, dai, comunque è un gioco che secondo me va recuperato. Questa è una piccola perla a livello proprio storico, insomma, io ve lo consiglio se avete l'opportunità. E infatti, anche perché proprio ieri dicevamo, no, del fatto che meglio un gioco più breve, ma senza che t'allunga il brodo con minigame buttati lì, tipo quello che sta succedendo in questo momento con Children of Silent Town, che mi sta piacendo come gioco assolutamente, soprattutto dal punto di vista grafico, però c'è un minigioco che ci si mette un po' a farlo, cioè metto veramente dai 10 ai 15 minuti, infatti ho dovuto fare due tagli nel video, ed è un gioco che si ripete, cioè più volte lo devi fare questo minigioco, che sta lì assolutamente solo per allungare il brodo. Perché farmi questo? Cioè, io una cosa non sopporto. Preferisco giocare 2 ore in meno, ma godermi la storia. Va bene il minigioco, però non puoi mettere lo stesso minigioco complicato 700 milioni di volte. Anche perché Mattia, non questo che c'è questa sera, ma l'altro, ha detto che devi avere pazienza perché ci sarà tante volte. Capisci che poi mi passa la voglia di giocarci, se tu mi dici che poi questo minigioco maledetto ci sarà pure un sacco di volte. No, cioè meglio una cosa breve, però senza che me allunghi il brodo con cose inutili. Questa è la storia, c'è il gioco, è avanti, scopri le cose, ci sta qualche pezzetto action, fine, arrivi al finale, bello, piaciuto, ottimo. Cioè, va bene così, perché allungare sto brodo? È una cosa che io proprio non sopporto e non comprendo, onestamente. Allora, guarda, ti devo dire che intanto ti ringrazio perché mi hai salvato la vita, cioè nel senso, esagerando chiaramente, perché insomma, tu sai, io lo volevo comprare, il, come si chiama? Manco mi ricordo. Children of Silent Town. No, ma è un bel gioco, a me sta piacendo, assolutamente. Stavo in fissa, lo stavo aspettando, come poi vedendo i tuoi video, vedendo questo enigma che si ripete in continuazione, che poi so, allora i puzzle in generale, i puzzle, se non so, puzzle ambientali completamente decontestualizzati, io è una cosa che secondo me sono stati la rovina delle avventure grafiche da un certo punto di vista, perché a quel punto tu dimostri di non averci neanche la creatività di riuscire a capire che tu, per mandare avanti un personaggio, puoi costruire un enigma nell'ambiente, cioè comunque situazioni che comunque devono incatenarsi per poter andare avanti, no che tu mi fai il mini gioco odioso che si ripete e ci metti 40 anni a farlo, che io disinstallo il gioco, e te lo dico perché poi io ho portato a termine, per dover fare recensione negli anni, avventure grafiche che sono durate 12 ore, che se duravano 4 ore era la stessa cosa, cioè capito quello che voglio dire? Quindi sono d'accordo con te, giusto? Sì, cioè nel senso, io infatti dicevo sempre su Telegram l'altro giorno, io voglio giocare a un'avventura grafica, non a un puzzle game, se no compravo un puzzle game. Cioè se tu mi metti questo enigma puzzle ogni singola volta che io devo fare quella determinata azione, cioè uno mi spezzi il ritmo dell'avventura, anche perché è un'avventura con un mistero. Se io ogni tot minuti devo fare sto cavolo de puzzle, il mistero un po' si affievolisce, diciamo, non sono più così presa dal però voglio scoprire che sta succedendo, no? Perché c'è troppa pausa su una cosa che non c'entra niente, come dici te. Cioè non è un enigma ambientale, eccetera, è un minigioco, maledetto minigioco. Sì, no, sono d'accordo con te su questa cosa. Anzi, io devo dire che il problema delle avventure classiche tradizionali, tutti quelli che si ostinano a farle, non sono tanto il minigioco in questo caso, però ad esempio proprio la staticità. Come dici tu, quando tu incominci ad andare avanti su una narrazione, spezzare la narrazione per una cosa che è complicata andare avanti, perché ci vuole 40 minuti per fare quell'enigma, perché devi andare prima a Kathmandu, poi devi andare a Bombay, poi devi andare a New York e via dicendo, capisci che questa cosa te spezza proprio completamente la narrazione. Oggi noi ci piace vedere che cosa ci stanno raccontando, no? Quindi ecco, diventa proprio complicata questa cosa. E quindi Gemini Rue invece, secondo me, da questo punto di vista vince proprio a mani basse, nonostante essere un punto e clicca iper classico, da questo punto di vista. anzi, se non mi sbaglio, c'aveva pure quella meccanica delle idee utilizzate come, cioè delle informazioni usate come oggetti, o forse era un altro gioco. No, questo non me lo ricordo perché mo sono passati tanti anni. Mi ricordo il momento action, sì, però questa cosa onestamente no. Sì, che era cioè, tutto sommato, rispetto a tante altre avventure che avevano questa disgrazia dell'action all'interno del gameplay, tutto sommato questo poi alla fine... No, infatti è fattibile, va benissimo. Comunque Inspi dice, portalo Deb, sembra interessante. Questo sì, l'avevo già pensato di portarlo e probabilmente lo giocheremo. Devil dice, sì è vero, ricorda Binit. Quelle immagini lì secondo me soprattutto. Nico dice, mix fantascienza noir ha creato una bella atmosfera, vero? Ha una bella atmosfera, fantascienza, noir, detective, pure a me piace. E ha finito Atomic Heart, ma sai, è già finito, ti è piaciuto? Simone dice no comment, penso per gli enigmi, per gli allungabrodo che stavo dicendo, immagino sia. Mattia dice, beh, anche God of War ha sempre lo stesso minigioco delle casse, ne devi fare 100, ma quasi nessuno si lamenta. E beh, forse perché lì è più caciarone, non lo so, onestamente non te so dire. E quindi dici, va bene, posso fare pure questo enigma delle casse, non lo so, perché ripeto, qua la questione, io ho comprato un punto e clicca, e poi c'è sta il puzzle ogni 2 minuti. Ah! No, c'è anche da dire che Gemini Rue è proprio una storia, cioè c'è proprio una narrazione dietro, è un racconto, si vede proprio che è stato prima scritto proprio come narrazione e poi è stato sceneggiato come avventura, quindi capite, sì, diverso. Gemini Rue, sì, no, penso di lui intendesse il minigioco di Children of Silent Town, perché lui diceva, sì, il minigioco delle casse di God of War. Non sono presente, devo dire la verità. Quello del professor Layton, esatto. Però professor Layton va bene, perché io compro professor Layton dove so che durante la storia ogni 2 passi devo fare un enigma. È fatta apposta, no? E invece io qui compro un'avventura grafica dove voglio giocare un'avventura grafica, non a un puzzle game, che capisci? È lì che fai... Sì, sì, infatti ci sono dei giochi che sono specificatamente indicati come puzzle game. E lì game, va, no? Bene, lì va bene. Lo sai, e basta. E poi comunque cambiamelo il puzzle, non me lo fa sempre lo stesso. Esatto, cioè, va bene, mi vuoi mettere il puzzle. Cosa seria questa. Però non posso fare la stessa cosa 20 volte, capito? Cioè, devo un po' basta. Inspi ha detto, diciamoli, i puzzle hanno rotto il... Quindi sono d'accordo. Simone dice una cosa simile. The Rising Sun dice, avete giocato ai giochi moderni come Sally Face o Frambeau? Frambeau l'abbiamo giocato in live, mi è piaciuta abbastanza, secondo me si perde un po' nel finale. Sally Face l'ho visto giocare in un gameplay e mi è piaciuto molto. Quella è una bella avventura, va, consiglio. È arrivata intanto Jenny, buonasera. Avventura molto bella, investigativa, temi interessanti. Come in poche parole, cosa significa la personalità di una persona? Non ho capito, perdonami. Come in poche parole, cosa significa la personalità di una persona? No, non ti ho capito, perdonami. 28 ore volate in Atomic Heart. 28 ore. Minchia, io e Gabriel non finiremo mai, penso. Però un po' è partito benissimo, poi si è perso. Sono d'accordo. Va bene, signori, andiamo avanti. 2012. Mi tocca metterlo per forza, perché anche se l'abbiamo un po' parlato adesso, però... Mi tocca metterlo. Chi è questo? Deponia. E niente, Deponia, signori. Scusa, chi era quello? Non lo so, infatti dico, vabbè, metto le immagini perché non so chi sia. Probabilmente sarà il creatore di sto coso, non lo so. E quindi, vabbè, come abbiamo enucleato poco fa, avventura che ha avuto un successone, cioè addirittura 4 episodi... In tanti l'hanno amato, in tanti l'hanno odiato. Quindi questa è una classica avventura che o ami o odi. Cioè non c'è il grigio. Comunque sono 4 gli episodi, non sono 3. Ho detto 3, scusami. 4. No, allora, è avventura classica, basata tutta sulle animazioni e l'umorismo. I primi 3 sono anche doppiati in italiano, quindi se proprio ci tenete particolarmente, insomma, ve li potete godere da quel punto di vista. A me, devo dire, non mi piace... proprio il tipo d'umorismo, non lo capisco, cioè non è che non mi piace, non è che voglio dire che è un brutto gioco, perché probabilmente se è piaciuto tanto vuol dire che è anche un bel gioco, però io non fa per me, ecco, insomma, diciamo così. Guarda, io secondo me la cosa bella di questo gioco è il disegno, il tipo di grafica, è un disegno che a me piace tantissimo. È arrivato, c'è due nuovi questo tipo qua, io penso siano i creatori, credo. Ma cioè, io nomeno perché non apprezziamo il gioco probabilmente. Un po' inquietanti. Quindi sì, secondo me il punto forte è il disegno grafico, insomma, lo stile lo trovo veramente molto bello, però quello. Poi il resto, la commedia, eccetera, non fa per me, però veramente, cioè, non ho visto nessuno che dice se lascia giocare carino. Cioè, ho visto odi e t'amo, cioè, nel senso, o lo odi o ti piace da morire, cioè, non esiste il grigio con questa avventura. Cioè, ha proprio diviso così le masse. Vabbè, io sto dalla parte di quelli che lo ma poi lo odiano, è un po' una parola grossa, però no. Mi dà fastidio l'umorismo che non fa ride, quello. Soprattutto quella la cosa. Allora, Wajedai ha prodotto il capolavoro della serie di Blackwell. Ah, ti piacciono i Blackwell? 28 ore allungate all'esplorazione, Atomic Heart, ok. David dice che almeno qui i minigiochi sono skippabili. Ecco, questa è una cosa positiva di Deponia. Inspi dice: se poi ci pensi, Deponia e A New Beginning hanno in comune il tema di fondo del pianeta devastato. Però A New Beginning lo affronta in maniera seria, razionale, e affronta il problema in maniera seria, secondo me. Qua, boh, è tutto... cerchiamo di far ridere la gente, ma non ci riesco. Non lo so, per me è così. No, ma poi se l'intenzione era quella di dare un messaggio ecologista, si perde, si annacqua completamente nel canzonesco, capito? Perché poi alla fine non capisci se prende in giro il pianeta Monnezza o se invece ce l'ha col pianeta non Monnezza, cioè, proprio... Diciamo, noi siamo il team no. No, proprio no, mi dispiace. Per me possiamo andare pure avanti. Esatto. E invece Nico, ad esempio, dice: ho adorato il primo Deponia, molto divertente, vedi... Come Gabriel, sì. Insomma, lui si è divertito tanto, quindi è così. O ti ci diverti oppure te vuoi ammazzare, praticamente. Non c'è il grigio. Ho appena scoperto che mi manca il quarto capitolo, ma forse lo salto. Beh, a sto punto, se ne hai giocati i primi tre, ormai il danno è fatto. Poi esatto. Fa pure il quarto. Il più l'hai fatto. Allora, passiamo al volo invece a Yesterday. Questa qui è della Pendulo. La Pendulo, che sono i miei amichetti da una parte, perché sono i creatori di Hollywood Monsters. Come vi dicevo anche l'altra volta, Hollywood Monsters è sempre una delle mie avventure grafiche preferite. L'altra volta abbiamo parlato di Runaway che io ho giocato, se non sbaglio, tutti, credo, ma mi ricordo solo il primo. E vi avevo detto che l'avevo trovato il primo godibile. Yesterday, questo qui a me non mi ha detto niente. Invece quello successivo, l'Origins, mi è piaciuto molto di più di questo. Questo è proprio nullo, non classificato per me. Te che ci hai giocato? Allora, a me sono piaciuti tutti e due, sia questo che Origin. Però devo dire che questo secondo me è un gioco che a un certo punto si sono resi conto che non c'erano risorse. Infatti, se tu te lo ricordi, è brevissimo il gioco. Mi pare che sia particolarmente lungo. Vuole affrontare un po', ci vuole avere un tipo, come posso dire, una caratura, un tenore grave, però poi alla fine è un po' macchiettoso, cioè non è che è proprio chiara proprio la sua intenzione, secondo me, di questo gioco. Però io, come dici tu, poi a me la roba di Pendulo in generale, anche se i giochi sono mediamente brevi, la apprezzo perché sono quelli che nell'avventura grafica, quindi pur rimanendo abbastanza tradizionali con l'avventura grafica, hanno provato a portare un po' di dinamicità anche visiva, no? Quindi sai, quando molte animazioni, molto cambio di inquadrature, quindi tutta una serie di espedienti che ti aiutano anche visivamente a non star lì con la solita inquadratura di 40 minuti di una persona davanti all'altra che si parlano per 50 anni, no? Quindi ecco, io li apprezzo tantissimo per questo. Questa avventura a me non mi era dispiaciuta, però ti devo dire che me la ricordo anche poco, quindi probabilmente... Invece Origins, che l'ho giocata più recentemente, devo dire che invece quello mi è piaciuto. Anzi, devo dire che inizia pure in un modo inquietante, tutto sommato. Bello, sì, comunque... Sì, dai, Origins mi è piaciuto molto di più. Io l'ho giocato su PS Now, quando ancora il PS Now c'era, e ho detto, vabbè, proviamo. A me Yesterday non mi ha fatto impazzire, però ce l'ho lì, non lo devo pagare, insomma, sta lì nell'abbonamento. E invece l'ho apprezzata, l'ho giocata tutta e mi è piaciuta. Quindi Origins per me è un sì. Questa qui è un po' non classificato, okay, onestamente. La prima, insomma, questa qui, Yesterday, che giustamente poi David dice, la versione doppiata si chiama New York Crimes, perché infatti questo gioco si chiama Yesterday. O si chiama New York Crimes, cioè praticamente c'ha due nomi. Allora, non è che c'ha due nomi, c'ha due nomi per due mercati diversi, perché in realtà New York Crimes, mi pare, in America non poteva essere venduto perché c'era un problema delle licenze. Quindi questo gioco poi alla fine c'ha avuto questo problema del titolo, ma secondo me il gioco si vede che non è completo. Doveva essere qualcosa che poi alla fine non sono riusciti a fare, non te so bene dire, però poi sono passati anche tanti anni. L'unica cosa che dico su Pendulo è che Pendulo ha fatto questa escalation verso appunto il rendere le avventure sempre più dinamiche, fino ad arrivare ovviamente con l'ultima che hai giocato anche tu, con Vertigo, ovviamente arrivando allo stile Telltale. Insomma, ci sono arrivati molto piano, cioè con delicatezza, non ci sono arrivati così di fretta come hanno fatto in tanti, insomma. Vertigo, poi avventura che a me è piaciuta veramente tanto, ci siamo divertiti a giocarci in live, quindi quella ve la consiglio. A me me l'ha consigliata proprio Simone, e Simone consigli bene delle avventure, e è stato un gran gioco, mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro meglio del film, ragazzi, cioè, meglio del film. Allora, il film è considerato uno dei film più belli della storia del cinema, no? Tra i più belli. A me il film, Allora, posso dire, guarda, te lo dico perché lo sai, per me il cinema è una cosa abbastanza, diciamo che Hitchcock in quel, nello specifico Vertigo come narrativamente non è un capolavoro, non è un granché. L'unica cosa che possiamo sempre riconoscere a Hitchcock è che è un maestro dal punto di vista della cinematografia, perché faceva tutti questi effetti di prospettiva, in generale l'ha sempre fatto nei film, solo che nello specifico, no, ha visto quell'effetto, no, della prospettiva che si allunga, no? C'è anche nel gioco poi a un certo punto che rappresenta le vertigini. Ecco, se tu consideri insomma gli anni in cui è stato fatto, c'è una genialità dietro, no? C'è un lavoro di creatività che tanti altri registi fino a quel momento non hanno fatto. Ma lui ci giocava, sì, era assolutamente innovativo per l'epoca. Però ad esempio, cioè, per me Psycho è 700 milioni di volte superiore a Vertigo, cioè proprio imparagonabile a mio avviso. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Vertigo io l'ho visto perché è uno dei film preferiti di mio padre, in verità, la donna che ha visto due volte. Esatto. E mi fa: oh, guardatelo, è stupendo. Dico: vabbè, mo guardo, voglia. Lo guardo e penso: No, perché è stupendo. Non lo so. No, ma è stupendo cinematograficamente. Dal punto di vista narrativo è un film assolutamente trascurabile. Cioè, che secondo sì, me, non lo so. Volevano, ma cioè, secondo me questo gioco del doppio personaggio, di lei che era lei, cioè come se il pubblico si dovesse forse bisogna contestualizzarlo al periodo in cui è uscito, forse anche questo. Sì, magari. Quello assolutamente. Noi oggi siamo più smaliziati, magari ce lo guardiamo, dico: ma che è sta cazzata? Cioè, nel senso, si capisce, no? Com'è? Cioè. Però cioè, la cosa è che comunque io ho visto Psycho qualche anno fa, ok? Quindi sempre fuori epoca, diciamo. E lì io sono rimasta veramente colpita, poi la scena finale, lo sguardo di lui, io sono rimasta veramente colpita da quel film. Vabbè, e invece l'altro no, io poi cerco sempre di ovviamente di mettermi nell'ottica di quando è uscito, anche se non è facile ovviamente, quindi vedi l'innovazione, le storie che all'epoca erano innovative, magari adesso sono trite e ritrite perché poi sono state riutilizzate 700 milioni di volte, i colpi di scena, ormai sono diventati cliché proprio, no? Però, a me sta donna che ha visto due volte, non... No, ma io sono d'accordo, te l'ho detto. Cioè, secondo me è un film che vale la pena se lo studi, cioè, da un punto di vista proprio visivo, perché quello è il capolavoro di quel film. Psycho è un capolavoro assoluto a prescindere, cioè nel senso un film che... Non è paragonabile, no, con tutto il resto. Ecco, secondo me Pendulo, prendendo spunto da questo film e reinterpretando completamente la storia, prendendo invece poi in realtà il gioco delle prospettive, delle cose che faceva Hitchcock, secondo me è venuto fuori veramente un bel lavoro. Insomma. Quello è bello, sì. Ah, intanto una buonasera a Vincent Valentine. Buonasera. Oh, grande. Nico dice: come Resident Evil, che si chiama anche Biohazard. Esatto, in Giappone è Biohazard, sì. Buonasera a Lili, intanto, buonasera. Bellissimo Vertigo, vedi, a Simone è piaciuto. Io stavo dormendo fino a poco fa, mi sono svegliata. Buongiorno Lili. Vabbè, il gatto, sì. Mattia dice: io preferisco Psycho a Vertigo. Sono d'accordo assolutamente con te. Simone dice: io amo entrambi i film, ma chiaramente Psycho batte tutti. Sì. Twilight Zone non l'ho visto. Non so se tu l'hai visto. Twilight Zone? Io non l'ho visto. Twilight Zone era una serie, cioè i confini della realtà. Non lo so. Dice poi Twilight Zone batte tutti, ha scritto Mattia, quindi non so onestamente. Spiega Mattia. Spiegaci. Intanto noi passiamo al gioco successivo, che per me è forse uno dei giochi più belli uscito secondo me in questo quasi decennio. Bellissimo. Per me questo, signori, la prima serie è quasi un capolavoro. The Walking Dead della Telltale. Questo, io posso dire solo cose positive di questo gioco. È veramente stupendo. Io l'ho giocati tutti i capitoli uno dietro l'altro un sacco d'anni fa ormai. Lo stile grafico molto fumettoso mi è piaciuto tantissimo. Adoro i personaggi. Mi sono affezionata tantissimo a Lee. Mi piace molto Clementine come personaggio. Mi piace il tipo di giocabilità, la Telltale, che poi da qui praticamente ha fatto una grande carriera, insomma, la Telltale da questo qua. E quindi la storia è avvincente dal primo all'ultimo capitolo, è emozionante. È bello questo gioco, io ho soltanto belle parole per questo gioco, non riesco a trovare gli difetti onestamente. E sì, questo io è un gioco che io consiglio veramente a tutti, ragazzi, perché per quanto io non abbia visto la serie di Walking Dead e non abbia letto il fumetto, però questo gioco mi ha veramente emozionato. Poi so che comunque è un po' diverso dal fumetto, da cui è preso, però non lo so, cioè questo rapporto fra Lee e Clementine l'ho trovato veramente dolce, fatto bene, c'è cioè un'evoluzione nei personaggi, bellissimo. Cioè, questo, per me questo, veramente la parola è bellissimo, non ho altre parole da dire. Te Simone che dici di The Walking Dead? The Walking Dead, nonostante che già Telltale stava già marcando su questa tipologia di giochi, poi tra l'altro loro venivano da Jurassic Park, che era sempre c'era una serie episodica con Quick Time Event e tutto quanto, e fu criticatissimo era bruttina. Guarda, a me era piaciuta, devo dire la verità. Invece io e Gabriel non l'abbiamo finita, dopo un po' ci siamo allappati. Diciamo che capisco il perché non è piaciuta, però capisco anche perché mi è piaciuta a me. Però in generale loro avevano completamente abbandonato l'avventura grafica dalla quale loro venivano, perché tu sai, loro sono ex Lucas, erano inizialmente, no? E quindi praticamente si sono presentati con The Walking Dead, che ha un po' spaccato tutto, secondo me. Cioè, questo è il momento in cui i giochi narrativi spezzano praticamente il loro legame col passato, perché poi prendono una licenza che è una licenza di per sé drammatica, cioè drammatica, dura, cruda e anche un po' infame volendo, e devo dire che questo è uno dei tre videogiochi nella mia storia nei quali ho pianto, posso dire la verità, cioè nel senso, dici, ma come tu così tutto orso che piangi? Ma a me alla fine devo dire, ma va commosso, insomma, quindi per me è il capolavoro assoluto del Telltale. Sì. In generale mi sono piaciuti anche altri giochi, anche le altre stagioni non mi sono dispiaciute, però questo è proprio, cioè, perché loro riescono ad arrivare a un punto in cui, vabbè, non dico niente perché, no, insomma, cioè, non spoileriamo, però diciamo che ti affezioni così tanto ai personaggi, vieni così coinvolto dal rapporto che hanno fra di loro e dalla trama e tutto quanto, che mentre la vivi, cioè, è veramente straziante, come sta scrivendo adesso Nico. Cioè, veramente ti senti coinvolto è raccontata così bene che la vivi proprio tu. E io sono una persona che, come avete visto, insomma, sono un po' cuore di pietra, fame d'oro. Cioè, nel senso, io in tutto ciò che non è realistico non mi faccio coinvolgere tanto. Cioè, nel senso, magari, che ne so, sento notizie vere e mi prende a male. Oppure film tratti da storie vere mi prende a male. Però quando tendenzialmente è tutto molto inventato, che ne so, muore un personaggio, dico, vabbè, ma è un pixel, no? Ogni volta dico nei videogiochi, per di sti cazzi. Cioè, non sono così sensibile sotto questo punto di vista. E c'è da dire che, come diceva Simone, insomma, io non ho pianto, però è stata una delle poche volte in cui un videogioco mi ha trasmesso veramente la tristezza, è straziante, veramente la parola giusta che ha detto Nica, straziante, insomma, veramente mi ha fatto male, ma in senso buono, cioè nel senso fatto così bene che mi ha messo veramente angoscia addosso. Cosa che, ripeto, mi succede molto molto raramente se non è tendente al realistico, insomma. Quindi, infatti, anche i film, no? Cioè, io quando guardo i film con Gabriel, lui magari c'ha la lacrimuccia e io sto bella tranquilla, insomma, proprio. È lui comunque che si emoziona fra i due. Comunque guarda, c'è da dire una cosa su questo gioco in particolare, che secondo me è la iterazione migliore dell'universo di The Walking Dead. Secondo me la serie televisiva e anche il fumetto originale, secondo me, non riescono a raggiungere il livello del gioco, perché comunque, a parte che il gioco è costruito bene pure dal punto di vista registico, gli stacchi, le situazioni, quando comunque il modo in cui vengono presentate le scene, cioè è fatto veramente bene. E poi dall'altra parte ci sono comunque il discorso delle scelte che tu ovviamente nel telefilm o nel fumetto non hai, e che nella crudità, diciamo, dell'universo di The Walking Dead, ogni scelta che tu fai ha comunque veramente delle conseguenze, e le conseguenze sono inevitabilmente drammatiche. Quindi non c'è mai cosa giusta da fare, c'è la cosa che è giusta per te. Ed è per questo che il personaggio di Lee, nel modo in cui evolve, no, durante la storia, è credibile. Perché poi, alla fine, cioè, lui, come tante altre storie, cioè non è necessariamente il personaggio positivo, come Joel, no, in The Last of Us. Cioè, lui non è un personaggio positivo inizialmente, no? Cioè, noi lo sappiamo. Poi dopo diventa un personaggio positivo? Non lo sappiamo, è il legame che crea con Clementine che noi diventa, con il quale noi empatizziamo. Quindi per noi diventa un po' l'eroe della storia. Perché? Perché comunque lui prende con sé Clementine e la protegge come se fosse una figlia sua, no? E diciamo che a me sta cosa mi ha molto colpito, ecco. Ah, infatti proprio la caratterizzazione dei personaggi è una cosa che mi ha coinvolta tanto, perché sono personaggi realistici, quindi con i loro difetti, con i loro errori, con il loro egoismo anche. Ci sono tanti personaggi che in alcuni momenti, come succederebbe nella realtà, no? Cioè, io ho il mio parente che sta male, chi te se incula, io penso al mio parente. Cioè, è una cosa che veramente uno in un evento del genere si comporterebbe così, da egoista, no? Perché in una situazione drammatica come questa, alla fine è sempre il discorso mors tua vita mea, prima di salvare te che non te conosco, salvo mio padre che sta male, capisci? Cioè, esce fuori l'umanità, la vera umanità, in una situazione tragica. Anche questo, per questo è bello, perché tende al realismo dell'essere umano in una situazione devastante. Quindi è bello anche per questo, secondo me. Sì, no, è così. Dai, in un contesto come quello è ovvio che tu pensi a sopravvivere tu e quello che per te è caro. Il resto ha importanza a questo punto, insomma. Anche se poi comunque lo spirito cooperativo è un fattore di sopravvivenza a un certo punto, no? Però c'è una scena in particolare di una bambina, non so se tu te la ricordi, di Clementine che fa una cosa, cioè nel senso, c'è proprio un momento in cui tu sai che come fai la fai male. Beh, lì però tante volte le scelte, alla fine che scelgo, quella è la meno peggio, alla fine sono peggio entrambi, quella è giusta per te, giustamente, ed è così che funziona. E poi è bello perché c'hai pochi secondi per scegliere, come se tu stessi veramente lì, no? Non è che puoi stare le ore a scegliere, devi agire in fretta, stanno arrivando gli zombie, che cosa posso fare? E quindi anche questo ti coinvolge, no? Perché ti dà pochi secondi per scegliere, perché sta arrivando la minaccia. Quindi è realistico anche sotto quel punto di vista, devi scegliere al volo. Poi magari pensi, oddio, ho fatto male, ho scelto questo, avrei dovuto scegliere quell'altro. Però ormai è andata, cioè, capisci? Anche questo te lo fa vivere come se fosse una situazione reale. Quindi a me è assolutamente piaciuto tantissimo. Promosso. Promossissimo proprio questo. Ti ho detto, secondo me è uno dei più belli nell'elenco stasera, questo gioco qua. Diciamo che The Walking Dead è una pietra miliare, da questo momento in poi i videogiochi narrativi non saranno più la stessa cosa, ma in generale secondo me i videogiochi, perché comunque quell'elemento di drammaticità e di durezza, alla fine comunque poi dopo ce la siamo riportata avanti in tante altre situazioni. Infatti sul canale giochiamo sempre la tragedia nella tragedia, probabilmente anche grazie a The Walking Dead, insomma. Grazie The Walking Dead, grazie. Allora, leggo un attimo qualche commento. Allora, Mattia diceva che, sì, vabbè, Simone ha detto che era nei confini della realtà, ok? 5 stagioni. E poi The Rising Sun chiede, ma secondo voi la rivoluzione Telltale è stata positiva o negativa? The Walking Dead Season 1 si può considerare capolavoro anche per il tempo? Beh, per me è stata positiva, perché a me le avventure della Telltale tendenzialmente piacciono molto. Ad esempio, dopo questa metto delle Wolf Among Us, anzi se esce la seconda stagione magari prima o poi se ci fanno sto favore, ci hanno fatto sto trailer dove si vede qualcosa ma si vede niente alla fine, però non si capirà mai quando uscirà. quello pure è tratto da un fumetto, anche quello lì, e anche quello è un gran bel gioco, ragazzi, io vi consiglio anche The Wolf Among Us. E poi altro gioco che mi ha consigliato Simone Pizzi e che ho portato poi sul canale però in video, che mi è piaciuto tantissimo, è Borderlands. Cioè Borderlands mi è piaciuto tantissimo. Non pensavo, perché non avevo giocato la serie di Borderlands, proprio lo shooter, no, diciamo, ma ho giocato a questo qui e mi sono divertita tantissimo. Mi sono innamorata del protagonista, cioè proprio innamorata. L'ho messo come immagine di copertina su Facebook per un po' di tempo, perché mi ero innamorata del protagonista. No, devo dire che sono i tre capolavori di Telltale, cioè The Walking Dead, The Wolf Among Us, tra l'altro secondo me stilisticamente è anche superiore a tutti, cioè nel senso dal punto di vista proprio della scelta stilistica, come colori, come uso dei colori e tutta una serie di determinate cose, comunque secondo me è anche superiore a tutti. E poi Borderlands, che anch'io non conoscevo i videogiochi, non ci avevo mai giocato, che diciamo, tanto io li avrei giocati tutti quelli di Telltale, quando mi sono trovato sto Tarantino, cioè un po', perché poi alla fine c'è un po' quello stile di presentazione dei personaggi, quel modo un po' come posso dire, ironico, ma allo stesso tempo anche un po', forse splatter è troppo, però insomma diciamo abbastanza così anche duro, perché insomma alla fine le cose succedono, sono abbastanza particolari, e devo dire la verità, insomma a me è veramente piaciuto tanto, quindi io l'ho sempre consigliato Borderlands, che va giocato. Ho dato un'occhiata alla seconda stagione, quella non Telltale ovviamente, e devo dire la verità, pare che sia molto deludente come gioco, insomma, quindi per ora mettetelo da parte, insomma, se proprio avanza tempo. Esatto, però recuperate invece la prima serie, che figa. Vabbè, poi c'è chi ama Clem, chi ama Lee e Clementine. Mattia dice: a me piacque, giocai anche il secondo quando c'era solo la bimba, poi mi sono perso, non so quali mancano più. E c'è anche la terza stagione, mi sa sono tre di The Walking Dead. Quattro pure quella? Ah, ok. Io ho giocato solo le prime due, se non sbaglio, però la seconda è carina, ma non mi ha coinvolto tanto quanto questa. Cioè, secondo me la prima è imparagonabile. No, la prima è assolutamente imparagonabile. Sì. Non so male neanche. Allora, la terza stagione non c'entra niente. Ma la terza, cioè, non l'ho giocata ancora. Allora, c'è Clementine, a un certo punto appare, ma è un personaggio secondario, mentre che la quarta, che si chiama proprio The Final Season, che in realtà è un po' il compimento del viaggio di Clementine, che oramai è diventata 15enne, 16enne, insomma, quindi oramai si è presa lei le sue responsabilità, ecco, diciamo così, ed è interessante comunque l'evoluzione del personaggio, però il primo, ragazzi, cioè non c'è niente da fare. Sì, lì è veramente un gran personaggio. E comunque Mattia dice: vabbè, Deb è il debole per qualsiasi roba zombesca. Anche questo è vero, insomma, i giochi con i zombie mi piacciono. È una buona sera, Einet. Ciao, bella. Buonasera. Nico dice: episodio finale della stagione straziante, che è la parola che poi ho usato perché l'ho letta che l'aveva scritto lui. Inspi dice: confermo, pure io mi ero chiuso a giocarlo. E poi mi prende in giro perché dice: sì, ma tanto è pixel e poi quei giochi horror si caga. Vabbè, che c'entra? Non mi emoziona nel senso di piangere. Però mi cago sotto, quello sì. The Rising Sun dice: ma come, il fumetto di The Walking Dead è bellissimo, però poi ha messo una risata, quindi non so se non gli piace in verità. Nico dice: The Walking Dead 1 bellissimo, il 2 e 4 belli, il 3 non gli è piaciuto. Poi Inspi dice: ma tutti pensano a sé perché la situazione è diventata tragica perché tutti pensano a sé. E niente, buonanotte da fa le domande alla Marzullo, praticamente. La vita è un sogno, i sogni aiutano più veramente. Quindi è una risposta che non potremmo avere, immagino. La canzone finale è bellissima. Poi The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands sono molto sottovalutati. Sì, si parla sicuramente molto di meno confronto a The Walking Dead di entrambi, eppure sono entrambi veramente molto belli. Simone si è innamorato di Sasha di Borderlands. Per Nico questi tre sono la top 3 della Telltale, concorda. E Inspi dice: aspetto la serie di The Expanse, se la fanno bene pure quella sarà tanta roba. Tu a The Expanse lo giocherai? Sì, assolutamente. A me è piaciuta tantissimo la serie, quindi la serie TV, quindi in generale. Ma io, come ho detto, io qualsiasi cosa che viene da Telltale, anche se Telltale non è più Telltale, diciamo, anzi è una Telltale risuscitata, una The Walking Dead, insomma, quindi Diciamo che The Expanse lo aspetto perché finalmente, oltre alle loro meccaniche, hanno anche aggiornato un po' sto motore grafico che aveva un po', veramente, insomma, era roba dei 10 anni prima, quando uscivano i giochi 10 anni dopo, insomma, quindi è un po' triste, però sì, mi piace la serie, la giocherò, insomma. Per il resto, no, prima dicevo, no, del fumetto, ma non è che nessuno ha parlato mai del fumetto, altra perla sicuramente. Ho detto che The Walking Dead, secondo me, nel videogioco di Telltale ha trovato il massimo della sua ispirazione, perché c'è proprio il dramma della scelta lì, capito? Quindi è un po' particolare per questo, insomma. E poi dice: nella terza stagione di The Walking Dead hanno dovuto infilare Clementine apposta, sarebbe stato meglio come spin-off con la storia di Javier e basta, dice The Rising Sun. E intanto è arrivato Chiavaccio. Buonasera, Chiavaccio. Allora, devo tagliare qua, signori, che come al solito uno chiacchiera e si dilunga. E quindi passiamo a un altro gioco, sempre del 2012, che abbiamo giocato sul canale in video, ossia l'allegrissimo The Cat Lady. Agatara. Agatara, che ha avuto tantissimo successo questo gioco. Successone proprio. Che poi è il primo di questo creatore, no? Che poi sono usciti altri due, se non sbaglio. Uno era stato pure regalato su GOG qualche tempo fa. Però io ho giocato soltanto a questo. E c'è da dire che mi aspettavo molto di più. Nel senso, siccome è veramente osannato questo gioco, ed è la tragedia nella tragedia, quindi io dico, vabbè, questo mi piace sicuro, capirai, qua c'è un sacco di tragedia psicologica, roba così, mi piace proprio. Non lo so, cioè, nel senso, non è brutto come gioco, assolutamente, è molto particolare, c'è la tragedia, quindi quello mi piace. Però, forse era così osannato che mi aspettavo di più, cioè, mi pare un po' troppo esagerato, cioè ci sono alcuni pezzi che secondo me diventano esagerati apposta, volutamente, per far capire, insomma, la tragedia che vive questa donna con tutti i suoi problemi psicologici della sua vita, eccetera eccetera. Però secondo me è anche esagerato, cioè, nel senso, tragedia sì, però troppo, cioè secondo me diventa anche un po' troppo. Quindi, giocato sì, l'ho finito alla fine volentieri, insomma, però così osannato che mi aspettavo di più. Infatti non ho giocato poi gli altri dello stesso creatore, perché questo non mi ha convinto del tutto. Non è un brutto gioco, ma mi aspettavo meglio. Te che dici di The Cat Lady? Io penso che sia un po' il problema del gioco giocato magari a posteriori, no? Quando poi oramai si è fatto una determinata fama e quindi tu c'hai delle aspettative, quando poi le aspettative non rientrano magari in quelle che avevi tu, appunto, chiaramente un po' ti rimane un po' la mano in bocca. Io, guarda, devo considerare sempre il problema, che cerco sempre di contestualizzare la cosa, cioè questo è comunque sempre uno da solo che ha fatto un'opera che artisticamente e dal punto di vista della visionarietà, diciamo, è abbastanza valido. A me è piaciuto proprio l'impatto, anche perché forse così è stata una un po' delle prime avventure che portava certe tematiche con una certa crudezza in questo modo qui. E quindi io l'ho giocato quasi subito. Questo, diciamo, che mi ha avvantaggiato da questo punto di vista. Perché sennò c'è quello che io chiamo l'effetto Final Fantasy VII, no? Cioè, io ho giocato Final Fantasy VII 15 anni dopo che ci hanno giocato tutti, quindi io sapevo perfettamente che Aeris a un certo punto della storia moriva. Cioè, vabbè, spoiler, ragazzi, sono passati 25 anni. Se non sapete che è successo in Final Fantasy VII, buttate il computer. Ma calcola, io non ci ho giocato a Final Fantasy VII, ma lo sapevo, quindi, insomma, penso sì, lo sanno un po' tutti. Esatto. Quindi io, quando mi sono trovato di fronte a quella situazione, ed è per questo che per me Final Fantasy VII non è il miglior Final Fantasy, come dicono tutti, no? Anzi, forse il 6, giocato su Super NES, secondo me era di gran lunga superiore, perché comunque sapevo già quello che sarebbe successo, no? E quindi alla fine mi è passato un po' così. Secondo me The Cat Lady è un gioco che va giocato comunque. Sì, sì. Non è un capolavoro, però è molto visionario, è molto disturbante per certe cose. E secondo me poi piano piano gli altri giochi, secondo me, sono migliorati molto da questo punto di vista, sia dal punto di vista tecnico, che chiaramente si vede un po' una rifinitura, un'affinatura, insomma, diciamo, nella capacità di sviluppare il gioco del tizio. E sia perché comunque poi le storie diventano sempre più potenti da un certo punto di vista. Quindi sono giochi che vanno giocati. Poi chiaramente il problema è che sai, insomma, già un po' tutte le tematiche, sai un po' tutto quanto, insomma, quindi non lo so. Non lo posso difendere perché so che c'ha dei limiti, però secondo me è un gioco che va giocato. Quindi tu dici che i giochi successivi di questo creatore sono superiori a questo? Sì, sì, anche perché allora, in realtà da quello che ho capito io, ad esempio Lorelai in teoria è collegato a questo, ma in teoria lui l'aveva pensato prima, però poi sono giochi che magari ha risviluppato successivamente. Sai, quando tu poi fai la tua prima esperienza, pubblichi il tuo primo gioco, ricevi le determinate critiche, alla fine comunque impari qualcosa, no? E quando tu poi fai il prodotto successivo, in teoria è migliore. Per me è stato così, però poi non mi sento di dire come ho fatto in tantissime altre occasioni, ci metto la mano sul fuoco, capito? Per me comunque artisticamente è un'esperienza che va fatta, quella dei giochi della serie Cat Lady, insomma, perché sono importanti da questo punto di vista, perché completamente indipendenti e completamente senza risorse, quindi sai, questo fa tanto la differenza. Perché calcola, una cosa che io ho letto spesso invece è che questo è il migliore dei tre, per quello io non ho ancora giocato agli altri, perché siccome mi aspettavo forse di più, no, come dicevi te, l'effetto Final Fantasy, insomma, non avendomi fatto impazzire, ho detto: beh, se questo è il migliore dei tre, onestamente, prima di giocare agli altri due, voglio giocare ad altro, capito? Cioè, nel senso, non è che non voglio giocarli, anche perché, ripeto, GOG ha regalato Lorelai proprio, mi sa. Quindi, cioè, voglio giocarli, perché comunque tutto ciò che ha a che fare con problemi psicologici è sempre di mio interesse. E però, siccome ho sempre letto che questo è il migliore degli altri, ho detto vabbè, lo giocherò, sai, il classico lo giocherò, poi chissà quando ci giocherai, no? Però se tu mi dici invece che questo secondo te è inferiore agli altri successivi, mi fido. Allora, no, aspetta, no, correggo, diciamo che non è che è inferiore, cioè secondo me questo rimane il più forte come impatto, proprio perché comunque dagli altri già sai che cosa ti aspetti. Ecco, diciamo che quindi tu già sapevi cosa ti aspettavi da questo, figure dall'altro, insomma. però diciamo che, ecco, come dici te, quando avrai l'opportunità, secondo me una possibilità gliela devi dare sempre, anche perché se non gliela dai vuol dire che comunque non c'è feeling fra te e questa opera dal punto di vista artistico, capito? Il che ci sta benissimo, cioè non è che... Certo. Assolutamente niente di male in tutto questo, anzi, il problema è che a me comunque personalmente come individuo, diciamo che m'hanno colpito, proprio perché in realtà io all'inizio non sapevo che cosa aspettavo, sapevo che parlava certe tematiche, ma poi più andavo avanti più la cosa diventava veramente un po' disturbante. Poi io non sono uno che c'ha feeling con le cose troppo tali, diciamo così, insomma, a un certo punto di vista psicologico, psichiatrico, ma anche insomma di altro genere, insomma, quindi sai, più andavo avanti più la cosa diceva ammazza, però ecco ragazzi, io non su questo non mi sbilancio, perché sono tipi di giochi artisticamente molto particolari, quindi te devono piacere, insomma. Comunque sì, effettivamente a una certa è un po' disturbante tutto quello che accade, quindi sotto quel punto di vista è fatto bene, nel senso, comunque riesce a trasmettere quel senso di disagio proprio dell'essere viva, insomma, della protagonista. È, insomma, è capibile, quindi secondo me è un argomento molto delicato, un argomento molto difficile da trattare e soprattutto da condividere, e quindi a modo suo è riuscito a spiegare un po' quello che vive una persona con determinate problematiche. Certo, ripeto, estremizzato al massimo, forse per quello che ti dico, forse un o tanto, insomma, secondo me, però rende l'idea di cosa passa a una persona che affronta nella sua vita dei momenti difficili, ecco. Quindi sotto quel punto di vista a me piace. Poi ripeto, quando un videogioco parla di problemi psicologici, difficoltà sotto determinati punti di vista, io apprezzo sempre, sono contenta che se ne parli sempre di più, perché come dico sempre, tante volte sono malattie che sono sottovalutate o sono non considerate ancora tutte le malattie veramente, e quindi il fatto che nei videogiochi si parli sempre più spesso di malattie mentali e in qualche modo vengano rappresentate per far capire a chi non le prova che cosa sta provando una persona in quella situazione, lo trovo molto positivo, perché bisogna veramente prendere seriamente questo tipo di malattia. Quindi sotto questo punto di vista io sono molto contenta che se ne parli sempre di più, onestamente. Beh, poi guarda, c'è da dire, forse chiudendo un po', a parte che tu già vedi il trailer e già capisci che l'approccio non vuole essere realistico ma completamente visionario, no? Quindi diciamo, è una rappresentazione grottesca di una metafora che l'autore, forse ecco la cosa importante di questo, di questa opera, è che non è un lavoro corale che parla di una persona che c'ha un problema. Questa è proprio un'opera autoriale, cioè, quindi c'è proprio tutto il senso artistico e narrativo che l'autore voleva mettere all'interno di quest'opera, e questo si capisce. Poi ti ho detto, cioè, i limiti sono comunque anche da riscontrare sull'inesperienza anche, no? di provare a costruire questo tipo di opera come in un medium che magari, insomma, è la prima volta e ti ci cimenti, no? Perché insomma poi alla fine oggi con Adventure Production, là, come si chiama, il tool con cui si possono fare le avventure grafiche, e che poi è il tool che ha utilizzato lui la prima volta. Cioè, se tu c'hai l'opportunità, la voglia, il tempo da perdere, un minimo dei codici e via dicendo, un gioco lo tiri fuori, no? Però è chiaro che non c'hai un team dietro, persone che comunque ti aiutano magari nel testare l'opera che tu hai fatto. Quindi lui ha fatto quest'opera, era convinto di quello che faceva, visivamente, dal punto di vista della visionalità, funziona, perché comunque ti disturba, un po' di che non ti disturba, e quindi secondo me il suo obiettivo l'ha ottenuto. Poteva essere fatto meglio? Sì, però sempre le risorse sono quelle che fanno la differenza, purtroppo, nel mondo dei videogiochi. Sì, quindi no, anche per me comunque questo è un sì, assolutamente. Ripeto, forse avevo troppe aspettative, è stato quello l'errore, però onestamente non è un brutto gioco. Comunque Simone dice, gioco interessante con riserve, quindi anche Simone l'ha apprezzato, però c'ha qualcosa da ridire. Chiavaccio invece dice Cat Lady mi è piaciuto, non è male. The Rising Sun ci chiede se abbiamo mai giocato a The Path. Io no. Tu hai giocato a The Path? Sai che no. Non aspetta. Ho idea di che cosa sia The Path. In questo momento non mi viene in mente, però. Vediamo se capire. C'è qua su Steam, per curiosità. The Path. Questo? Se è questo, no, non l'ho mai giocato. Dio, un po' inquietante, no, ragazzi. Non l'ho mai, sì. No, non l'ho mai giocato, ma ho capito qual è. Perché ho visto i trailer. Io non ce l'ho. Ma è tipo Cappuccetto Rosso? Ma guarda, non te lo so dire perché non l'ho giocato, però sì, mi ricordo che se ne era parlato, che era abbastanza pure questo. No, questo non lo conosco proprio, sai. Mettilo in wishlist, dato wishlist. Esatto. Poi Inspi dice, ho come l'impressione che Deb li porterà sul canale. Allora, beh, a sto punto probabile. Simone dice, le aspettative alte sono una brutta bestia, questo è vero. Approva il mio discorso sulla psicologia, grazie Simone. E Jenny dice che ha giocato a The Path. E The Rising Sun dice perché The Path è uno di quei giochi estremamente autoriali e strani. Beh sì, si vede che comunque già dal tipo di grafica, che è abbastanza particolare, assolutamente. Io comunque penso sia Cappuccetto Rosso questa, anche perché fa parte della Tale of Tales, quindi ci saranno le favole, non lo so. Però è un po' inquietante, onestamente. Va bene, bando alle ciance, salto un po' di cose perché qua non famo un tempo, andiamo al 2013 e andiamo a un gioco, signori, che rappresenta quelle che poi sono diventati i Walking Simulator, praticamente. Quindi nel 2013 esce Gone Home, che all'epoca, insomma, ci hanno giocato veramente in tantissimi, era piaciuto molto. E niente, da qui più o meno inizia, insomma, l'era dei Walking Simulator, quindi di avventure. Poi, come dicevo prima con Simone, Everybody's Gone to the Rapture, oppure ci sta The Vanishing of Ethan Carter, tutte queste avventure qui in prima persona, dove c'è un mistero, tu cammini qui dentro una casa, però ad esempio in The Vanishing of Ethan Carter in giro per una zona dove era anche un po' abbandonata, dove ci stavano anche delle rotaie, una certa, una miniera, una cosa simile, mentre in The Everybody's Gone to the Rapture è dentro un paesino. E quindi piano piano, camminando per le varie zone, raccogliendo soprattutto dei fogli o a seconda di come è scelto il modo di narrare la storia, andando avanti uno capisce che cosa è successo. Praticamente è la classica cosa del è successo qualcosa, io sono appena arrivato, non so che è successo, però tramite determinati indizi, andando avanti, scopro che cos'è successo. Quindi da qui in poi sono usciti fuori questo tipo di avventure che a me onestamente non fanno impazzire. Ecco, Firewatch l'ho portato sul canale, è stato uno dei primi giochi che ho portato perché me l'aveva detto Inspi di portarlo, e sì, l'ho preferito a Gone Home, sì, però anche quello non mi ha fatto impazzire. Invece mi è piaciuto un gioco che è uno sviluppatore italiano, però se non sbaglio anche quello poi l'editore è Daedalic, se non sbaglio, che l'ho portato sul canale. Quello mi è piaciuto perché comunque c'ha più una sorta di mistero un po' tendente all'horror, che è The Suicide of Rachel Foster. Quello lì mi è piaciuto di più, insomma ero abbastanza in ansia mentre lo stavo giocando, quindi mi ha coinvolta di più. Te invece, Simone, che dici di questi walking simulator di Gone Home? Raccontaci. Mi sa che il primo è stato The Arrester, che era una mod di Half-Life, tra l'altro, non so se te lo ricordi, che era sempre, praticamente era basato tutto su una storia, tu esploravi l'ambiente, cliccavi cose, leggevi cose, quella che ti raccontava la storia. No, non ce l'ho presente. E quello diciamo che è stato il primo, poi dopo The Arrester, tra l'altro quelli che crearono The Arrester con una mod di Half-Life, in realtà poi lo pubblicarono standalone e poi diventarono la Chinese Room, quelli che poi hanno fatto Everybody's Gone to the Rapture. Cioè, quindi poi alla fine vedi che c'è sempre un po' una sorta di parallelismo, e Gone Home è quello che secondo me ha portato questo genere, diciamo, al grande pubblico, ecco, se vogliamo dire. Sì. Da qui in poi è stato riconosciuto proprio questo genere del walking simulator, insomma. Allora sì, diciamo che ci sono anche dei distinguo da fare, perché Gone Home è prevalentemente walking simulator come ce ne sono stati tanti altri. Diciamo che ce ne sono alcuni che hanno molto sviluppato la parte narrativa, quindi diventano più interessanti, altri che hanno sviluppato molto anche la parte estetica, no? Perché adesso non mi ricordo come si chiama, ce ne sta uno che tu praticamente devi andare nella villa di quando eri piccola, che quindi ovviamente ti si racconta tutta quanta la storia della famiglia, che c'è sta casa tutta costruita un po' strana, adesso non mi viene come si chiama. Comunque alcuni puntano molto sull'aspetto estetico e altri poi aggiungono anche delle meccaniche che, diciamo, nei primi walking simulator non c'erano, perché vengono fondamentalmente, no? Quindi capisco, insomma, che possano essere dei giochi che possono non piacere, perché definirli giochi è a volte anche un po' complicato, sono più esperienze, ecco, dei racconti visivi fatti in una certa maniera. A me Gone Home, devo dire la verità, non è che mi abbia mai fatto impazzire in particolare, perché peccava anche d'estetica, poi tutto sommato, cioè nel senso era proprio rozzo, cioè come gioco, cioè non l'ho apprezzato tanto. Invece alcuni che sono usciti poi successivamente, compreso The Vanishing, Ethan Carter, devo dire che almeno lì un po' di meccanica di gameplay c'era, perché comunque tu dovevi ricostruire la meccanica del ricordo della situazione per poter andare avanti, e poi era graficamente anche molto bello. Poi, come detto, insomma, che Rapture per esempio era, insomma, tutto ambientato in questo paesino, fatto col CryEngine, graficamente bellissimo, addirittura, ragazzi, potete fare le fotografie, potete fermare a fare le fotografie. Tu dici, a che te serviva? A niente, però era bellissimo. Sì, ricordo. Cioè, esatto, era bello. Poi il gioco di per sé è assolutamente inconsistente, anche la storia non mi ha mai detto niente, però come dicevamo con Deborah prima, insomma, prima della diretta, alla fine in realtà c'è tutta la parte tecnica, recitativa, sembra quasi di assistere a una messa in scena teatrale con un doppiaggio incredibile, potrebbe essere un audiolibro quell'esperienza lì, insomma. Ecco, diciamo che non sono un fan, diciamo, però alcuni giochi hanno aggiunto qualcosa, ad esempio Virginia, che adesso farò giocare presto a mia moglie, è un gioco di quelli che aggiunge qualcosa. Poi anche lì a tutti non piace, perché c'è questo miscuglio tra X-Files e Twin Peaks, è muto, quindi ovviamente è tutto basato su un altro tipo di comunicazione, di linguaggio. Insomma, alla fine sono sperimentali, se li consideriamo come forme sperimentali secondo me sono interessanti, se li consideriamo dal punto di vista del gameplay non so, videogiochi alla fine, cioè nel senso c'è poca roba. Sì, alla fine è come vivere un racconto, no? Cioè nel senso, io ti racconto questa storia mentre tu stai esplorando, no? Quindi io ti racconto ciò che è successo durante la tua esplorazione, quindi è un modo di raccontare secondo me più che un gioco, capito? è un nuovo modo di raccontare una storia, quindi sotto quel punto di vista comunque molto innovativo, sicuramente interessante. Poi magari a me non fa impazzire, però ad esempio ho giocato a Virginia, l'ho portato sul canale perché è uno dei giochi che mi hai consigliato te, di quello mi è dispiaciuto che fosse veramente molto breve, avrei preferito che continuasse un altro po', però sì, insomma, queste vibes un po' alla Lynch comunque sono state interessanti, quindi è stato interessante come gioco, non mi è dispiaciuto per essere insomma una sorta di walking simulator. Avrei preferito che durasse un altro pochettino, l'ho trovato esageratamente breve, però è stato interessante comunque come tipo di gioco. Sì, sono d'accordo con te sul discorso che non è una pietra miliare Virginia, ma è un'ennesima sperimentazione, perché lì addirittura c'è il tentativo di utilizzare il linguaggio cinematografico all'interno di un walking simulator in prima persona, quindi è proprio iper sperimentale da quel punto di vista, e quindi secondo me va giocato con veramente anche solo per quello. E Gone Home, secondo me, ecco, anche questo, come The Walking Dead a modo suo, per la crudezza narrativa, il realismo narrativo, diciamo così, ha portato, insomma, una rottura. Gone Home ne ha portato un'altra, cioè una rottura cioè nel senso, è andata verso un nuovo stile di gioco che poi alla fine è diventato molto più popolare da questo punto di vista, e che anche qui si sta declinando in sottogeneri, quelli horror, quelli più tranquilli, quelli investigativi. Devo dire che poi alla fine comunque da ogni cosa nasce sempre qualcosa di buono, tutto sommato, se poi ovviamente c'è un'evoluzione. Sì, ma infatti l'innovazione è sempre ben accetta, insomma, poi piano piano magari ci si lavora sopra e escono fuori dei miglioramenti, no? Quindi ben venga l'innovazione. Comunque The Rising Sun diceva: si usa cappuccetto rosso per raccontare i problemi in diverse fasi della vita di una ragazza, quindi era il cappuccetto rosso, quella lì di The Path, ok? Simone, vabbè, odia Walking Simulator, Orticaria in arrivo, ha detto. Secondo me Firewatch è uno dei walking simulator più belli. Pure a Inspi piace molto Firewatch. Mattia invece dice Gone Home non mi piacque, invece mi sono piaciuti molto Firewatch e The Suicide of Rachel Foster. The Suicide of Rachel Foster pure a me. Forse fra questo genere di giochi è tra quelli che ho preferito. Anche io sono d'accordo in generale. Sebbene poi alla fine Firewatch ce l'ha l'atmosfera, è particolare come gioco, però secondo me non ha funzionato del tutto. Poi c'è tutta quella parte narrativa iniziale, no? Della storia della malattia della moglie, che alla fine c'è è solo un incipit perché lui è andato a far guardia a boschi, insomma, fondamentalmente. Che è un po' sprecata, buttata un po' così. Sai, secondo me qual è il problema di Firewatch? Che ci sono stati dei momenti in cui ho camminato tanto e non è successo niente. Cioè, nel senso, perché siccome è ambientato vedi che sono Gone Home è dentro una casa, Rachel Foster è dentro un hotel, Everybody's Gone to the Rapture è all'aperto, sì, però alla fine tu devi fare quel tragitto durante la storia nel paese, no? Cioè prima vai lì, poi vai alla stazione, poi vai alla scuola, c'hai comunque una traiettoria, diciamo, no? Firewatch è esageratamente, secondo me, per essere un walking simulator tendente all'open world. Io anche mi sono un po' persa, perché io, capirai, poi mi perdo. E quindi veramente ci sono stati dei momenti in cui ho camminato tanto e non succedeva nulla. Non c'era né la tipa che ti chiamava alla radiolina, non si capiva bene dove dovevo andare. Anche se guardavo la mappa, a volte non si capiva dove dovevo andare. Cioè, secondo me ha spezzato un po' il ritmo della storia il fatto che fosse esageratamente esplorativo, ma nel senso, però, esplorativo di nulla, non esplorativo trovo cose. Ma in realtà, guarda, un secondo po' aperto, capito? Sono d'accordo, perché anche io, come te, alla fine, all'inizio in particolare, ho avuto delle difficoltà proprio a capire anche il dove, no? Quindi questa mancanza di chiarezza nel posto dove devi andare, anche se, come dici, c'è la mappa, alla fine ti fa perdere solo un sacco di tempo. Poi ho visto, c'è gente che invece capiva subito, andava subito nei posti, quindi succedevano sempre cose in continuazione, no? Invece a me questa cosa non succedeva, perché io sbagliavo strada, io mi perdevo mezzo alle fratte. Allora, quella cosa è sbagliata, secondo me. Cioè, nel senso, se tu vuoi fare un gioco in arrivo, quella cosa è sbagliata. Se vuoi fare un gioco esplorativo, allora può andare, può avere senso. Però il problema è che se è esplorativo, poi ci deve stare la roba da esplorare. Quindi, sì, capito. Cioè, nel senso, io veramente mi sono persa a mezz'ora fratte. Io poi ho fatto dei tagli, ovviamente, ma a una certa me incazzo, cioè veramente mi sono incazzata, perché dovevo andare in un posto e sembrava che ci stavo arrivando e invece sono andata tutta un'altra parte. Poi ci stavo per arrivare e soltanto che ci stavano tutte pietre, non c'era modo di scendere, non c'era il sentiero, cioè casino. Certo, ho tagliato perché mi sono pure incazzata, insomma, vabbè, questo, ma perché io ho un senso di orientamento molto, insomma, ridicolo anche nei videogiochi, pur seguendo una mappa, e quindi mi ha dato un po' il nervoso forse, e quindi Firewatch un po' dico, oddio, basta, pietà. No, però hai ragione, anche perché poi il gioco, essendo cromaticamente e stilisticamente praticamente tutto identico, è facile quello, cioè, quello che, cioè, quindi lo capisco quello che dici. Anche io a un certo punto stavo, dico, vabbè, senti, quasi quasi lo disinstallo. Poi dopo alla fine mi ci sono messo e sono andato avanti, però devo dire la verità, all'inizio può essere snervante se non agganci subito come prendere le coordinate, cioè come orientarti nell'ambiente, cioè nel senso vai per fratte, come dici, c'è ragione. Sì, io ho bisogno di una freccetta che mi dice guarda, devi andare lì, devi andare lì, perché anche, se non anch'io, è anch'io, anch'io sì. Allora, comunque, The Rising Sun diceva il prossimo gioco degli sviluppatori di Firewatch esce nel 2029, quindi con molta calma, insomma. Allora, io non lo so se esce nel 2029, però io ho visto il trailer un anno fa, un anno e mezzo fa, e mi aveva intrippato tantissimo. Tant'è non so che infatti, quale sia il gioco, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama, però mi sa che è ambientato in Egitto, cioè tipo esploratori che vanno nelle piramidi, cioè, adesso non mi ricordo bene, però c'era questa cosa del... c'era questo sapore archeologico, ecco, diciamo così, che doveva essere particolare, quindi sempre in prima persona, però c'erano più personaggi, quindi insomma era un po' più articolato, diciamo, come, non mi ricordo come si chiama, solo che a un certo punto non se n'è più parlato di questo gioco, e questo mi ha un po' allarmato perché il trailer prometteva bene, insomma. Poi capirai, se mo esce nel 2029 c'ho cuore proprio. Poi Nico dice Gonome iniziato ma poi l'ho dimenticato. Sì, io l'ho giocato ma poi l'ho dimenticato, quindi sì. The Rising Sun dice Stanley Parable è bellissimo, ma adesso parliamo proprio di quello. Anche Road 96 secondo me è un'evoluzione interessante del genere. Road 96 l'abbiamo fatto tutto sul canale in forma di video. L'unico vero problema di quel gioco, che insomma per me, è stato il fatto che alla fine facevi sempre la stessa cosa, cioè nel senso, sì, era il viaggio di tanti ragazzi, però alla fine il pezzo finale arrivavi lì, dovevi attraversare il confine, quel pezzetto era sempre uguale. Mi ha un po' annoiato perché l'ho trovato sempre un po' uguale, anche se c'erano poi vari modi per fuggire dal paese, e quindi quella cosa era carina, le storie dei personaggi che incontravi erano carine, quello sì. La giocabilità però mi ha un po' annoiato, onestamente, Road 96. Devil dice Firewatch infatti in trippa. Inspi dice Stanley Parable addirittura metanarrativo, mo ci arriviamo. Ma pensi che gli sviluppatori volessero farti fare lunghe camminate su Firewatch? Sì, sicuramente volevano immergerti nella natura, farti fare la camminata nella natura, no? Alla fine Walking Simulator, quindi ti fai una bella camminatina nella natura, però io dopo un po' mi faccio due palle, onestamente, se mi perdo. L'anno scorso era uscito un Walking Sim con protagonista una ragazza molto particolare, produzione italiana, non mi ricordo il nome. Allora, non so se però, no, però non è dell'anno scorso, è uscito qualche anno fa, io l'ho giocato, l'ho trovato anche un bel gioco, un gioco italiano che si chiama The City of Light, come si chiama? E poi ce l'hai anche in lista, ma secondo me lui fa riferimento a Martha is Dead. Ah, Martha is Dead, non l'ho giocato, però l'ho visto giocare, anche quello mi è piaciuto come gioco. Quello è tosto. È bello tosto, sì, quello a me è piaciuto. L'ho visto in gameplay, perché non avevo ancora un PC buono, dico vabbè, non giocherò mai, e quindi l'ho visto giocare, mi è piaciuto quello, è un bel gioco, sì. Anche quello tratta argomenti molto delicati, insomma. Quello è tosto. In maniera cruda, sì, è un bel gioco quello, mi è piaciuto. Tra l'altro il nuovo gioco degli autori di Firewatch si chiama The Valley of Gods. Sì, l'ha scritto The Rising Sun, adesso lo vediamo un attimo al volo. E Inspi dice non si era perso lui, va bene. Non è esplorativo, serviva un minimo di orientamento bello per mappe e simboli ambientali, serviva per dare quel minimo di sfida, ostacolo, oltre alla parte della solo narrativa. Per me era una grande sfida, però, perché mi sono persa veramente tanto. Anche tranne Inspi, che non si perde, bella per lui. Siete voi che avete giocato in maniera easy, voglio solo andare dritto a seguire la storia, sì. Perché, ripeto, non amando i walking simulator devono succedere cose, se no mi annoio. Quindi sono proprio io che mi approccio in maniera sbagliata, sono d'accordo, perché è un genere che non mi fa impazzire. Quindi è vero. E sì, Valley of God, dite. Valley of God. Eccolo qua, Gods. Ah, ho capito. Ma è quello che ha condiviso. Avevi condiviso te, Nico, questo? O mi sbaglio? No, forse è simile a un altro che deve uscire. Tra l'altro c'è un trailer che qui non c'è su Steam. No, non c'è, non c'è. Però sì, dicembre 2029, capito? Con molta calma. È assurdo, dai, io 2029, insomma, anche se sto ancora qua. Capisci? Quindi. Chissà se siamo ancora vivi, insomma. Guarda che cianocchio, se dicevano. Cioè, capito? Va bene signori, passiamo all'altro gioco, sempre tagliando, del 2013, del quale avete parlato poco fa, ossia The Stanley Parable. Allora, che dire di questo gioco? Ho giocato anni fa, e anche perché ne avevo sentito parlare molto bene, tutti dicevano figo, figo, figo, figo, figo. Beh, sicuramente particolare la scelta del gioco, insomma. Tu che stai in questo ufficio e ti fai queste strade, puoi scegliere dove andare e ti senti perduto dentro questo ufficio. E quindi ho apprezzato l'idea, sicuramente ho apprezzato l'idea della particolarità, poi la voce che ti parla un po' di pia per culo. E quindi sì dai, questo qua confronta un Gone Home, insomma, che mi ha annoiato. Questo qui l'ho trovato comunque forse più originale, più divertente, e mi ha invogliato di più giocarlo, insomma. Non l'ho trovato meraviglioso come all'epoca, mi ricordo che tutti dicevano no, è fighissimo, però l'ho trovato sicuramente simpatico. Questa è una cosa che ho apprezzato. Te, Simone, ci hai giocato a The Stanley Parable? Sì, e intanto guarda caso nasce da una mod di Half-Life anche questo, quindi, e tra l'altro uno se ne rende conto perché quando provi a cliccare sugli oggetti incliccabili fa quel famoso che si sentiva su Half-Life quando cliccavi sulle cose. Dice, anche i suoni sono quelli. Esatto. Poi dopo so se l'hanno risviluppato, l'hanno, so che hanno fatto una remastered, so bene. Comunque, guarda, se devo dire quello che dicevo prima, e quindi c'ho poco da dire su Stanley Parable, che se un walking simulator si presta alla sperimentazione, questa è la sperimentazione all'ennesima potenza, perché solo è iper interattivo, ma diventa proprio metanarrativo, diventa veramente diventa disorientante nel senso proprio più psicologico del termine, ed è divertente il fatto che il gioco gioca con te, cioè non sei tu che giochi al gioco, è il gioco che gioca con te. Quindi quando tu sai che cioè la voce dice adesso andrà a destra, ah no, va a sinistra, quindi cioè lui ti in qualche maniera ti condiziona a fare delle scelte. Perché poi la volta dopo, quando tu ci ritorni, dici vabbè, mo ho fatto così, allora prova a fare cos'ha. E quindi tutte cose che sono ovviamente già previste dal gioco, fino ad arrivare, insomma, al momento in cui non capisci più neanche dove stai. Insomma, nel senso... Sì, no, certo, te perdi. Vabbè, io ripeto, mi perdo sempre, quindi. Sì, no, ma in questo caso è fatto apposta. No? Cioè, questo è veramente pura sperimentazione. E devo dire che da quel punto di vista, secondo me, funziona e merita tutti gli applausi e i premi che ha vinto, proprio perché è veramente un gioco che gioca, quindi è una cosa incredibile. Poi sì, trovo molto simpatico il fatto, appunto, che questa voce ti parla, no? Un po' ti percula, quindi questa è una cosa molto carina. Sì, poi nel senso, dopo che l'hai sperimentato 5-6 volte, ciao, insomma. Sì, vabbè, sì, una certa dice vabbè, bello, però passiamo ad altri. No, però dai, comunque questa è un'idea molto originale, quindi l'ho apprezzato. Infatti The Rising Sun dice: se non ti piace l'umorismo di The Stanley Parable probabilmente ti annoia. No, io l'ho trovato simpatico, carina, questo tipo di humor l'ho trovato divertente. Valley of Gods forse la prima volta l'avevo visto 3 anni fa, dice Nico. Chiavaccio va al lavoro, buona serata, grazie Chiavaccio di essere stato con noi. E Simone dice: il gioco gioca con te, che è Jumanji. Beh, Jumanji, insomma, è un po' più cattivo, insomma, confronto a Stanley Parable. E niente, quindi vabbè, questo dai, alla fine è stato approvato anche da noi. E un bel gioco, dai, un bel gioco. Una bella idea, soprattutto, secondo me. Sì, l'idea è la parola giusta. L'idea, secondo me, è carina. Poi il gioco è quello che è, insomma, cioè nel senso cammini per l'ufficio, te perdi, eccetera. Però è l'idea di fondo, il personaggio, cioè la voce che ti prende in giro, quella è la cosa secondo me bella di questo gioco. E vabbè, passiamo al volo al 2014, altro gioco importante, Broken Age, e niente, questo qui, insomma, che dire di questo gioco? C'è sta Tim Schafer e... Io l'ho giocato, se non sbaglio, sempre sul PS Now, perché mi sembra stava sempre lì. E l'ho giocato perché, insomma, era famoso, perché appunto c'era Tim Schafer in mezzo. E che dire di questo gioco? Graficamente l'ho trovato molto carino. Non mi ha fatto impazzire. Allora, ci sono due personaggi, come potete vedere qui dalle immagini. Si può giocare quindi con la ragazza, questa qui, e con questo ragazzo qua. Mentre lei va in giro un po' per vari mondi, la parte sua è ambientata in una navicella. Tra i due ho preferito la parte della ragazza, mi è piaciuta di più. La parte della navicella mi ha un po' annoiata e ho anche un po' barato, perché alcuni enigmi, forse o so io che mi sono annoiata e quindi non ci ho voluto perdere troppo tempo, ho iniziato a trovare un po' di mancanza di logica. Ecco, ad esempio qua mi sono piccata, qua questo pezzo qui per fare... una sorta di telaio, mi sono veramente impiccata, un po' barato con questo gioco, mi ricordo, anche perché a una certa nella sua storia mi sono veramente stufata, però ormai lo volevo finire perché comunque volevo vedere come andava a finire, anche perché comunque in qualche modo le due storie sono collegate e quindi ero soprattutto curiosa di vedere la sua storia come andava. Quindi che dire, questo gioco è giocabile a mio avviso, però ho giocato a meglio, la roba migliore. Te, Simone, ci hai giocato? Io sono rimasto molto deluso da sto gioco, proprio profondamente, ma un po' in generale anche dal comportamento di Tim Schafer in generale, perché poi quando lui aprì la campagna, in realtà poi la campagna inizialmente andò molto meglio di quello che lui si aspettava, e quindi ho cominciato a fare video che facevo splendido, che gli arrivavano i soldi da sopra, cioè cominciato a fare. E poi alla fine questa cosa lo ha quasi portato a dividere il gioco in due parti che sono completamente diverse l'una dall'altra, cioè nel senso non tanto la storia, che chiaramente è sempre quella, ma la prima parte è un gioco, diciamo un'avventura più simile a quelle moderne, dove non ci sono grossissimi ostacoli, diciamo, dal punto di vista del proseguire l'avventura. E la seconda parte diventa un'avventura dei 10 anni prima, cioè con gli enigmi, che devi andare da un personaggio per capire l'enigma di quell'altro personaggio, cose che hai visto in Day of the Tentacle, tanto per capirci, insomma, no? Quindi quella meccanica lì, che l'ho trovata completamente distaccata dalla prima parte, completamente diverso proprio come tipo d'approccio. E questa cosa mi ha disturbato tantissimo, cioè proprio non ho simpatizzato col gioco, e devo dire ho faticato molto a finirlo. Poi alla fine però ero curioso di sapere come andava a finire, e quindi l'ho finito, perché sennò sarebbe stata una di quelle volte in cui proprio un'operazione quasi nostalgico la seconda parte, a voler rimarcare queste impronte delle avventure Lucas di una volta, cioè raga, andate avanti un pochetto, avete un po' scocciato. Infatti, vedi, abbiamo detto più o meno le stesse cose, cioè nel senso la parte di lei alla fine è giocabile, la parte di lui... Ci sono stati alcuni enigmi, alcuni pezzi che ho dovuto barare, perché onestamente non credo ci sarei mai riuscita ad arrivare, perché appunto, come dici te, si rifà un po' a quello che erano le vecchie avventure, dove un po' ti perdevi, non sapevi che fare. Io ripeto, questo telaio l'ho odiato, cioè mi ricordo l'ho odiato tantissimo sto telaio. Sì, no, poi dopo diventa tutto enigmi su questo impronta qua, no? O sul collegamento dei fili, e devi i cavetti che devi, insomma, dei robottini, quelli rotti, no? Che tu devi prendere i cavetti, li devi mettere nello stesso modo in cui quel cavetto sta nel robottino dall'altro personaggio. No, proprio no, raga, proprio completamente bocciato per me sto gioco. Sebbene per gli amanti, insomma, per i fan del buon team, posso capire che magari possa anche piacere. Poi tra l'altro hanno aggiunto una cosa che ho trovato al limite del disgustoso, cioè quella del filtro pixelloso, che è praticamente il gioco uguale, cioè nel senso non è, dice, sai, hanno rifatto la grafica in un'altra maniera, è il gioco, solo che praticamente c'è un effetto mosaico sul gioco. Tra l'altro la cosa fa pure schifo, perché cioè è fatta male, è proprio fatta male, cioè è talmente grezza come cosa. È come se tu prendi una fotografia di Deborah e ci metti pixel sopra, no? Cioè, basta che la ingrandisci che un sacco di volte diventa un pixel praticamente. La cosa è come mettere un effetto mosaico su un'immagine, per capirci, no? È una cosa che non c'ha proprio senso di esistere proprio, cioè non... Che poi l'ho provato perché ho detto vabbè, fammi vedere. Io mi sa che manco l'ho provata, calcola, manco usato uno, sì, sa tra le impostazioni. Che poi tra l'altro pure io l'ho giocato su PlayStation, quindi io sì, sul Game Pass, sì, sul Game Pass, sul PS Now, se non sbaglio, pure questa qui, dato che stava lì l'ho provata, era famosa, dico vabbè, proviamo. Però sì, abbastanza deludente, sono d'accordo. Graficamente è l'unica cosa che mi è piaciuta tanto, il tipo di disegno l'ho trovato molto carino, anche i colori, però qui sì, insomma artisticamente è carino. Ed è anche un'avventura che ha fatto il suo segno, perché comunque insomma dicevano che aveva riportato in auge le avventure, perché aveva vinto comunque tutte le cose dei raccortafondi e via dicendo. Però secondo me non è quel capolavoro che molti vorrebbero, perché sai, parlare male di Tim Schafer è un po' come parlare male di Monkey Island, no? Cioè nel senso, non perché bisogna parlare per forza male di Monkey Island, però in generale, capito, cioè nessuno c'ha il coraggio, tutti, se prendi l'ultimo Monkey Island, te l'ho detto, io già ne abbiamo parlato di questa cosa, no? Cioè se tu vedi le recensioni mega galattiche, incredibile, gioco meraviglioso, non vediamo l'ora, abbiamo pianto, dopo una settimana non ne parla più nessuno di questo gioco, cioè questo ti fa capire, no? Quanto oggi si tende ad esagerare quando si mitizza un certo tipo di personaggio, barra gioco, barra vogliamo. Sì, sì, ma cioè, più o meno non c'entra niente, no? Però è un po' come stanno a fare due palle da tanti mesi con l'uscita da Sirenetta. Cioè, io uscirà tra qualche giorno, insomma, intorno al 20 maggio, se non sbaglio, no? Ma ti giuro, cioè, ma la stanno a fa odiare, sono mesi e mesi e mesi e mesi che stanno a parlare di sta Sirenetta, per motivi positivi, per motivi negativi. Cioè, fate uscire sto film, vediamo com'è e poi ne parliamo. Tanto mo, come hai detto te, ne hanno parlato per mesi prima che uscisse, mo magari esce due settimane e poi non ne parla più nessuno. Cioè, ma perché? Diciamo che vabbè, non entriamo nel discorso, perché il discorso della Sirenetta è come l'elfo del Signore degli Anelli su Amazon. Sì, cioè, lì ovviamente ci sono cose negative di cui stanno parlando, insomma, però capisci, nel senso, veramente sono mesi stanno a fare due palle questa Sirenetta, fallo uscire e poi vediamo. Sì, sì. Cioè capisci, inutile parlarne per mesi. Stessa cosa è stato con l'ultimo di Monkey Island, che da quando è stato annunciato al giorno che è uscito non si è parlato d'altro. Oddio. Cioè capisci, sono d'accordo con te, a una certa basta, insomma, fammolo uscire e poi vediamo, insomma, poi diamo un'opinione. Cioè è inutile parlare sempre all'infinito di questa cosa, sono d'accordo, ripeto, l'effetto che stanno a fare con la Sirenetta, che alla fine sarà un brutto film, sarà un bel film, a me live action li trovo inutili e non mi piacciono, però cioè de base fallo uscire e poi se ne parla e poi basta, insomma, non che per mesi e mesi e mesi a fa due palle, cioè no. Sono d'accordo. No. D'accordo, anche perché oggi poi si fanno le polemiche sulle cose. Le polemiche su tutto, basta. Ma come anche gli va la gente di fare polemica su ogni cosa? Sì, l'epoca dei social funziona così. Mamma mia. Diciamo, polemica prima era solo al bar e mo' su internet. Esatto. Mo' adesso è diventata sistema, quindi ovviamente cioè, non ne puoi uscire da sta cosa, no? Sì, sì, però capisci, cioè, veramente a una certa dici pietà, cioè basta, sì, ho capito, esce la Sirenetta, basta. Come prima era, ho capito che esce Monkey Island, basta, cioè, ho capito. Sì, no, sono d'accordo. Comunque Nico dice l'aveva iniziato ma l'aveva annoiato questo qua Broken Age, e di Schaffer invece ha adorato Psychonauts non l'ho mai giocato. Ah, io ho giocato il primo, capisco che a tantissimi piace, lo capisco, però non è... Ah, io c'ho un problema mio proprio personale con le cose pupazzose, cioè nel senso... Le cose pupazzose. Sì, non riesco a immedesimarmi in un personaggio che non capisco neanche che antropomorfizzazione c'ha, capito? Cioè è proprio... Ma questo è un limite mio, quindi alzo le mani su questo, perché Francesco Lobby Frontali, per esempio, che anche insomma lui l'ha giocato, e so che pure il secondo, perché... proprio lui è un fan di sto gioco, evidentemente deve essere bello, insomma. Quindi, sai, non entro poi nel merito delle cose che non capisco, perché ammetto che c'è delle cose che non capisco e quindi non posso neanche dire che non mi piacciono, non le capisco, è diverso. Sì, no, io lo conosco soltanto l'esistenza di Psychonauts, ma non ho mai giocato. Invece Simone dice, Tim Schafer è un ex Lucas, se non erro, sì. E poi dice, l'album The Wall dei Pink Floyd è sopravvalutato, tanto per stare in tema di cose intoccabili, dice Simone. Bah. Questa è l'affermazione della quale ti prendi le tue responsabilità. Allora, passiamo ragazzi al volo al 2015, secondo me non faremo in tempo a arrivare al 2019, però vabbè, diciamo arriviamo dove arriviamo e poi va bene così, eh? E ecco, questa altra avventura sicuramente importantissima in questo decennio, ossia Life is Strange. Mi ha aperto tutti i giochi, mi ha aperto il primo, ok. Allora, di questo qui l'ho giocato tutto il primo e dei Dontnod e anche qui insomma ha portato una innovazione che, cioè, secondo me si riprende un po' un Telltale de base, insomma, però più un'esplorazione di problematiche giovanili, soprattutto secondo me questa serie. Spesso legate a problemi psicologici che hanno a che fare sia con l'adolescenza ma anche con problemi familiari, con problemi scolastici, vari problemi comunque che affrontano gli adolescenti in questo periodo, quindi raccontati attraverso queste storie di 5 episodi tendenzialmente. Io questo qua l'ho giocato tutto, mi è piaciuto, sì, trovo che la protagonista però spicchi poco, cioè nel senso lei, se non sbaglio si chiama Max, e però lei spicca poco confronto alla co-protagonista, insomma alla sua spalla, che è la ragazza con i capelli blu, non mi ricordo come si chiama, poi. Chloe. Che secondo me spicca molto più Chloe confronto alla protagonista. Infatti io mi ricordo molto più lei, mi è rimasta molto più impressa Chloe confronto a lei. La protagonista la trovo un po' moscetta, insomma, come personaggio principale. Anche lei ha una sorta di poteri, questi poteri pure un po' così, non lo so, non mi hanno convinta del tutto. E soprattutto, secondo me, i finali, che ovviamente non vi spoilerò, che se possono essere due, sono entrambi molto deludenti. Quindi, secondo me, è la classica idea che parte bene, si sviluppa andando nel secondo o terzo episodio in maniera interessante, poi alla fine si perde a un finale, secondo me, inguardabile. Però mi piace questa idea di affrontare, insomma, queste problematiche giovanili in queste storie che hanno anche un qualcosa un po' di magico, insomma, qualche potere. Però ho giocato a questo, ho giocato al terzo, e il terzo mi è piaciuto tantissimo. Infatti, se avete visto la mia top 10 dei giochi che ho giocato nel 2022, ho messo Life is Strange True Colors al primo posto. Cioè, mi è piaciuto veramente tantissimo, quindi secondo me è proprio superiore a questo, imparagonabile, sia per le tematiche affrontate, sia per i personaggi. La protagonista, ad esempio, di True Colors a me è piaciuta veramente tanto, e il modo in cui è sviluppata la storia, tutto il mistero che c'è dietro, perché ovviamente ci sono sempre poi dei misteri che vanno svelati piano piano. E quindi a me il terzo mi è piaciuto in maniera esagerata proprio. Mi piace anche il potere più o meno che c'ha la protagonista del terzo, e secondo me è tutta un'altra cosa. Proprio il livello del racconto, delle problematiche affrontate dalla protagonista del terzo episodio della saga, insomma, secondo me è un altro livello proprio. Poi sempre problematiche psicologiche, quindi come vi ho detto a me sono argomenti che interessano. Devo giocare ancora al secondo, che mi ha consigliato sempre Simone Pitti, e ce l'ho, e infatti quando finiremo prima o poi di fare Sherlock Holmes Chapter 1 la sera, vorrei giocare con voi il secondo, che tanti dicono che è il peggiore della serie, mentre il buon Simone mi ha detto in verità che è il suo preferito, giusto? È il tuo preferito, no? Il mio preferito è il terzo. Ah, il terzo, ok, pure te. Ma perché comunque, come hai detto tu, cioè alla fine i personaggi sono più adulti e quindi le tematiche sono più tanti da un certo punto di vista. E allora, partendo dal primo, primo è una teen opera, poi fondamentalmente è una serie televisiva molto teen, quindi cioè fondamentalmente l'atmosfera è questa, no? Le solite situazioni del liceo. L'unica cosa che a me mi lasciò perplesso è che pare che non si possa fare un videogioco narrativo senza la parte esoterica, senza la parte paranormale, no? E come se ovviamente le storie non fossero abbastanza interessanti senza mettere quel tipo di contesto là, e questa è una cosa che poi a me un po' mi dispiace, devo dire la verità, anche se poi fortunatamente ultimamente insomma le cose stanno cambiando. Sì, diciamo che bello, a me è piaciuto, forse un po' lento negli stacchetti, nelle parti, nelle scene introduttive, le musiche, insomma dopo un po' dupa, e sì, forse il finale non è all'altezza. E non è altezza forse neanche la protagonista, perché se vogliamo utilizzare un termine da giochi di ruolo D&D classici, la protagonista è un legale buono, mentre che Chloe è un caotico neutrale, diciamo così, no? Quindi risalta alla fine, di più. Alla fine il caotico neutrale risalta di più, tant'è che lo spin-off Life is Strange Before the Storm è la protagonista è Chloe, non è Max. E devo dire che è interessante anche quella, una miniserie sotto tre episodi, se lo trovate in qualche bundle potete tranquillamente giocarlo, anche perché racconta diciamo i pregressi della storia tra Chloe e Rachel, che Rachel è una dei personaggi, perché poi su Life is Strange il primo poi a un certo punto c'è proprio una deriva tutta insomma tutta un po' giallesca, insomma un po' inquietante, no? Quindi alla fine però sì, vabbè, c'è sempre il mistero poi, no, durante la storia. Sì, il secondo anche qui sempre una storia senza la possibilità di poter raccontare una storia senza l'aspetto paranormale, però diciamo che anche qui si è collegato al primo, tutti e tre hanno questo filo comune, insomma, no? Però diciamo che ti racconta in questa storia on the road di sti due fratelli, ti racconta un'America in maniera abbastanza impietosa, diciamo un po' stereotipato come tipo di racconto, perché chiaramente non vuole essere un film politico, ecco, diciamo così, però ti racconta insomma aspetti dell'America abbastanza inquietanti, turbanti, perché comunque poi loro sono due fratelli messicani, no? Che devono ovviamente sopravvivere in un contesto di un paese insomma che già de per loro lì, cioè già per il fatto che sono messicani li vede in una certa maniera, e in più ovviamente affronteranno alcuni contesti, alcune situazioni sociali abbastanza interessanti. Non è un capolavoro, però secondo me insomma è più coraggioso, ecco, rispetto al primo. Il terzo è più maturo, quindi sicuramente il terzo è quello che c'è anche una storia, anche le storie d'amore, poi dipende dal tipo di storia d'amore che intraprendi, una in particolare è più credibile, no, rispetto a tutto il resto, che invece gli altri due non ci passano a malapena, insomma, diciamo, su questo tipo di tema. Quindi sì, dai, ci sta, insomma. L'unica cosa è che poi tutti questi giochi da Life is Strange in poi sono tutti personaggi che ritornano in un posto che è sempre il paese di provincia, dove tutti hanno i segreti, tutti hanno, e tutti ti odiano perché tu sei andato via chissà per quale motivo, insomma, ecco. Vabbè, però secondo me alla fine secondo me la base è sempre da Twin Peaks, cioè nel senso è il paesino dove tutti hanno i segretini, tutti sì, si fanno i cazzi loro, tutti si mentono a vicenda, dai, la base alla fine secondo me è sempre presa da Lynch comunque. Sì sono d'accordo. Sai, poi sempre ste foreste, no? Pure lì a Twin Peaks, ogni volta per cambiare la scena si vedevano gli alberi da sopra che si muovevano col vento, no? Non so se ti ricordi. E qui pure, sempre nelle foreste stanno, quindi secondo me sempre un saluto a Lynch, insomma. Anche romanzi di Stephen King, perché poi alla fine... Anche un po' Stephen King, sì, è vero. Le stazioni di Stephen King sono sempre quelle, il paesino... sperduto. Il paesino sperduto dove abitano quattro gatti, ma tra quei quattro gatti c'è sta sempre qualche crimine, qualche cosa, misteri, gente che si odia, gente che si mena, un po' queste cose. L'unica cosa che ti posso dire è che avendo giocato il 3 prima del 2, forse in questo caso il 2 lo penalizza sto fatto, capito? Perché comunque devi sempre considerare che i giochi quando escono dopo comunque tengono sempre in considerazione un'evoluzione anche dal punto di vista della scrittura, della narrativa, no? Quindi sai, il 2 non è potente come il 3 secondo me. Però è interessante perché appunto ho detto affronta delle cose che alla fine sono anche incredibili, cioè non fai fatica a pensare che in certi ambienti, in certi contesti dell'America funzioni in quella maniera lì, insomma. Sì, infatti sono molto curiosa onestamente di giocarlo. Vedo le toglie sto Sherlock Holmes Chapter 1. Basta. Toglielo. Purtroppo non l'ho seguita la serie, ma no, hai fatto bene. Poi si combatte pure. Mamma carino. Mia, il combattimento più brutto della storia dei combattimenti, c'ha cioè quel gioco. Ma perché, perché? La domanda è perché? Ma che ne so, io la Frogwares, ripeto, penso siamo veramente nemici, quindi no, non te so, non ne capisco quelli da Frogwares. Comunque, intanto ciao Mattia, buonasera, buonasera. Le avventure procedono bene, il problema è che siamo nel 2015 e insomma è quasi mezzanotte, quindi penso che arriviamo dove arriviamo e poi ci salutiamo, insomma, quindi non è un problema, non vedremo tutti i giochi, ho dovuto già tagliarne tanti dalla lista, però stiamo approfondendo bene ogni gioco, dai, mi fa piacere questa cosa. Nico dice che Life is Strange gli sta sulle palle. Invece Tort dice bellino il primo, ciao Tort, e i seguenti solo per mungere. Attenzione che qui invece abbiamo un fan del primo di più confronto a quelli successivi. Tort però il terzo è troppo bello. Poi Nico dice ho finito con fatica il primo episodio della prima stagione e l'ho mollato. Ah, quindi proprio hai giocato soltanto un mezzo episodio praticamente, non t'ha proprio appassionato già dall'inizio. Inspi dice Life is Strange 3 è quasi più interactive movie che un gioco, change my mind. Vabbè, alla fine ripeto, sono tutti secondo così. Me un po' così, insomma, alla fine sono tutte storie interattive, quello so, sì. Con alcune scelte che cambiano poi magari il finale del gioco, però alla fine sono tutte storie interattive queste qui, come tutti i giochi poi simili a questi, insomma. Cioè, sì, non è che ci sono queste meccaniche dei gameplay così evolute, insomma, sono tutti così, dai, poi chi più chi meno è questione sempre dello stesso treno, insomma. Sì. Secondo me sono volutamente delle storie interattive dove alcune scelte poi cambiano il finale, però alcune in verità, poi magari tante sono cazzatine, non... è più scenico che altro tante volte. Allora direi di vedere adesso, signori, un gioco che è poco conosciuto ma noi abbiamo giocato sul canale perché me l'avevano consigliato e mi è piaciuto veramente tanto, che si chiama Tormentum e deve uscire il secondo chissà quando, io ce l'ho nella mia lista desideri da tempo. Di questo gioco mi ha colpito soprattutto lo stile grafico, che lo trovo veramente meraviglioso, che è ispirato alle opere di, voi vi dico, Giger, non lo so come si dice, e Beksinski, che insomma complimenti a questi perché hanno fatto veramente dei disegni fantastici. E c'è da dire che questo gioco mi è piaciuto veramente tanto, al di fuori del tipo di grafica, sia come giocabilità, e che in verità è un po' sì, è tra un'avventura grafica punta e clicca, però c'ha anche qualcosa alla Machinarium secondo me come tipo di giocabilità. Ma mi è piaciuto poi il finale, cioè stranamente io faccio fatica a trovare giochi dove il finale mi piace, questo c'ha un finale così poetico, così filosofico, così profondo, cioè mi è piaciuto veramente quello che poi ti spiega tutto verso la fine del gioco, quindi al di fuori del disegno bellissimo, come va poi a svilupparsi la storia e la poesia, la filosofia finale. Io veramente mi è piaciuto tantissimo questo gioco, e che onestamente non penso abbia avuto tanto successo perché io non l'avevo mai sentito, mi è stato consigliato, ripeto, e non vedo l'ora che esca il secondo, ma pure lì va a capire quando uscirà. Te Simone questo l'hai giocato? Allora io non l'ho giocato ma lo conosco perché ce l'ho in lista e comunque ho seguito un pochino, e devo dire la verità che mi piace questa, a parte vabbè questo aspetto un po' gotico, un po' particolare, e anche la meccanica è interessante perché è una sorta di sì, forse Machinarium, ma un po' diciamo è abbastanza rappresentativo del gioco al quale si ispirano. Tra l'altro la stessa Software House ha fatto un altro gioco completamente diverso come concept, cioè no come concept, come ambientazione, perché è cartunesco e la protagonista è una bambina che si deve fuggire da un castello dove governano degli ombre oscure. Può essere, sì. Che poi è figo perché lì tu praticamente devi cliccare nei punti in cui ovviamente devi fare innescare gli eventi in determinati momenti, in determinate situazioni. È una sorta di, se proprio lo vogliamo andare a riprendere, una evoluzione moderna di Dragon Slayer, per capirci, no? Mm-hmm. Mentre su Dragon Slayer tu devi andare a destra, a sinistra, a pulsante per fare la spada quando c'era il Quick Time Event, qui non c'è un vero e proprio Quick Time Event, tu devi cliccare nei punti dove deve andare il personaggio nei momenti in cui lo deve fare, quindi sei tu che devi capire come. Però insomma, diciamo che insomma, da sviluppatori che hanno fatto Tormentum ti puoi aspettare sempre una cosa positiva, perché comunque sono tutti e due bei giochi. Però questo ce l'ho in wishlist prima o poi. Io questo, guarda, te lo consiglio veramente di cuore, perché c'ha un'atmosfera, come puoi vedere, molto dark, veramente ben fatta, poi questi disegni stupendi e poi ripeto il finale, tanto di cappello. Io ripeto, quando capita che qualche rara volta il finale è bello, cioè mi è quasi da piagne, no? Perché tendenzialmente a me i finali dei giochi mi lasciano spesso delusa, no? Dico vabbè, niente. O sono finali banali, che dice vabbè, era scontato e finiva così, o sono finali aperti, che quelli sono quelli che odio di più, quelli che poi sei tu che devi decidere secondo te come è andata la storia, perché non ti viene spiegato niente, quindi quelli li odio da morire. Oppure sono finali brutti. E quindi quando capita invece quel gioco che tu dici minchia, oh, questo c'ha pure un finale fantastico, cioè veramente mi rimane nel cuore. Quindi questo gioco io te lo consiglio assolutamente, perché un gran bel gioco e costa comunque anche poco, se non sbaglio. Adesso sta in offerta a 5,44, quindi questo è veramente bello. Ripeto, prima o poi spero uscirà pure il secondo. Lo attendo. Bene. Allora, Simone infatti gli piace tanto Tormentum e dice Giger, Jiger, non so come si dice, l'uomo che ha creato il costume di Alien. Ah sì? Non lo sapevo. Nico ci dà la buonanotte, grazie Nico, buonanotte anche a te, a breve chiudiamo anche noi, mando Simone a Ninna. Io ho la live alle 7 domattina. Quindi. A posto, quindi ti mando a Ninna. E... No, ma vai tranquillo, non è un problema io. E poi c'è Inspi che dice che Jiger là, lo stesso che ha ispirato anche Scorn. Eh sì, infatti si capisce insomma dal tipo di modo di rappresentare insomma soprattutto gli esseri qua più o meno umani, insomma. È quello, sì, è vero, obiettivamente è quello. E Devil dice Tormento mi è piaciuto e l'ho scoperto grazie a Deb. Oh, vedi, ho fatto qualcosa di buono. No, io in verità ringrazio Saladriel, perché è stato lui a dirmi di questo gioco, perché io non lo conoscevo. Quindi il passaparola ha funzionato. E va bene, io finirei questa liveozza. Mi dispiace insomma che siamo arrivati solo al 2015, però se a Simone gli va interessato, magari potremmo fare l'altra metà in un'altra serata, se ti va. Ma no, scherzi, io non c'ho problemi. Perché insomma, ne abbiamo parlato bene di questi giochi, mi fa piacere, li abbiamo visti bene, insomma. Magari ci abbiamo messo tanto, abbiamo dovuto tagliare tanto, abbiamo visto metà di quello che dovevamo fare, più o meno. Però abbiamo approfondito anche perché comunque gioco. da dire c'è, cioè, insomma, alla fine, perché comunque ogni gioco merita quel piccolo spazio, quindi alla fine se vogliamo fa dal 15 al 20 per me non c'è problema, insomma. Dai, allora si può fare. Allora, guardate, finirei allora con questi ultimi due giochi del 2015, così finiamo il 2015, che sono due giochi, questo qui l'abbiamo giocato insieme in live, ed è famoso questo qui, si chiama Framboo, quindi chi ha seguito, insomma, sa bene che anche questo qui è il classico gioco che a me ispira, perché tendenzialmente è roba di traumi, di gente che soffre, di roba strana, problemi psicologici e non solo, e quindi questo è il classico gioco che dico questo è fighissimo, lo devo giocare. Allora, che dire di questo gioco? Secondo me parte molto bene, soprattutto all'inizio, vabbè, questo lo posso dire, insomma, nella parte ambientata nell'ospedale. Parte molto molto bene e incuriosisce tantissimo la storia su come deve andare avanti, eccetera eccetera. È anche fattibile come difficoltà, quindi non è di quelli lì che ti rompi le scatole con minigiochi, con difficoltà. Se non sbaglio, cioè, sui 4-5 capitoli, se non erro, a mio avviso un capitolo era proprio evitabile, ossia il terzo dovrebbe essere, che è ambientato in una sorta di bosco, però non voglio fare spoiler. Secondo me quel capitolo poteva assolutamente essere evitabile, ma la cosa che mi ha deluso di più in assoluto è stato il finale, come dicevo poco fa, dei vari finali che non mi piacciono, ossia quello un po' aperto. Quindi dopo che tu mi fai fare tante ore di gioco, perché comunque non dura poco questo gioco, mi fai fare quel terzo capitolo che secondo me era evitabilissimo, è stato un po' un allungabrodo, mi hai messo tante cose da scoprire, capire cosa è successo in tutti questi viaggi mentali, insomma, che si fa la protagonista in questi strani mondi. Ecco, questo qui è il capitolo che avrei saltato, questo qua nel bosco, onestamente. Cioè, fammi capire perché si è arrivato a tutto questo nel finale. Il finale l'ho trovato molto abbreviato, quindi l'hanno proprio tagliato, a mio avviso, nel senso, hanno dilungato tanto prima e poi hanno dovuto chiudere. Cioè, secondo me si vede che a una certa hanno dovuto chiudere perché si erano dilungati veramente troppo. Quindi il finale, secondo me, è un po' tagliato e determinate cose non sono state spiegate, e quindi finisce che tu rimani un po' perplesso, un po' deluso dal fatto che ho fatto tutta sta fatica per arrivare fin qui. Dammi un finale degno, insomma, raccontami bene perché c'è stato tutto questo. E quindi sì, il classico finale un po' aperto, dove alla fine uno può dare le proprie opinioni, e sono rimasta un po' male, perché secondo me è stata una possibilità un po' sprecata, insomma, poteva essere sviluppato meglio verso la fine e dare un finale adeguato, insomma, saltando magari alcune cose che hanno un po' allungato il brodo. Te che dici di Frambo, Simone? Io dico che me lo ricordo pochissimo, che quando, se uno mi chiede ti è piaciuto, dico sì, però non mi ricordo perché. Diciamo, ti ricordi che ti era piaciuto, però il motivo, aspetta, non buon ricordo. Però ho ascoltato e una parte di me condivide quello che tu dici, quindi vuol dire che ha senso, cioè quella parte della memoria che sto cercando di recuperare, che non riesco a recuperare, però inconsciamente mi dice sì, ma mi sa che è come dice lei. Quindi diciamo che tra le cose, da quello che ho detto, un po', no, nella tua memoria ti ricordi che sì, obiettivamente questa cosa era così, eh? Però sì, dici, esatto. Però che succedeva a bombo, ricordo. No, non morico, no, veramente mi ricordo più la parte iniziale, che perché poi secondo me forse quando vai avanti a fatica, alla fine perdi pure un po' la concentrazione, ma magari anche l'interesse, ma magari non, però mi ricordo che la prima parte mi sembrava che mi era piaciuta particolarmente, però poi dopo non ricordo, forse non l'ho manco finito, però non so perché quando penso a Frambo e penso al fatto che comunque, cioè, ma com'è sto gioco, io dico sempre ah, bello bello, però non so molto. Però se non sbaglio loro sono sempre gli stessi che poi hanno fatto quella, la Miss Fortune, là, come... Sì, infatti, Little Miss Fortune, che io ce l'ho perché me l'hanno regalato. Quello l'ho anche proposto qualche volta su Telegram, ma non ha mai vinto finora. Però prima o poi lo giochiamo. Gli fa un sondaggio dove tutte e tre sono sempre lo stesso titolo. Esatto. Così alla fine. Giochiamo a Little Miss Fortune, a Little Miss Fortune o a Little Miss Fortune? Esatto, bravo. Secondo me merita molto. L'ho trovato brillante, divertente, oscuro allo stesso tempo, incredibile. Ci hanno fatto veramente. Anche qui si tratta poi di evolvere dall'esperienza, no? Cioè, nel senso, magari tu fai un gioco che aveva mille ottime intenzioni, poi magari si perde per. Boh, anche per inesperienza, perché ci può stare, non è che. Ah, beh, certo. Deve essere forse un male come cosa, insomma. E poi cambi magari tendenza, fai un racconto che è veramente oscuro ugualmente, però c'ha un tono brillante, ti piglia un po' per sedere, insomma, da questo punto di vista, insomma. Quindi è figo, è figo. Quindi mi confermi che è venuto meglio, insomma, Little Miss Fortune, sì, confronto a questo qui, eh? Sì, secondo me è più brillante, cioè è proprio più dinamico anche come gioco, cioè nel senso, comunque c'è questa narrazione, che la voce narrante che ti accompagna durante le varie situazioni che succedono, lei è particolare con sta vocetta e parla in quella maniera lì, è particolare, è particolare. C'è questa interazione tra lei e la morte, se non sbaglio, che il sempre narratore, roba allegra, insomma. Sì, sì, sì, lei, il narratore è la morte praticamente. Quindi, sì, quello sta lì in attesa che lo giocheremo, insomma. Comunque sì, penso lo giocheremo. Sono curiosa di vederlo, perché ripeto, comunque anch'io, se tu mi dici senti, ma che faccio, lo gioco Frambo, io ti dico di sì, non ti dico di no, perché comunque è interessante. Però ti dico, magari preparati al finale un po' deludente. Cioè, te lo dico, capito? Cioè, se tu mi dici che c'è gioco, ti dico di sì. Però preparati a un posto finale un po' deludente, insomma, ti avverto prima. Però io sono convinta che ti è rimasta impressa la parte iniziale, perché è la parte più interessante. Per quello ti dico, è partito molto bene, secondo me, sto gioco, poi si perde. Per quello ti ricordi, secondo me, l'inizio. Probabilmente è così. Diciamo anche che i finali in generale per un qualsiasi narratore penso siano l'incubo, soprattutto oggi che comunque non c'è più la stessa qualità narrativa di qualche tempo fa. Insomma, i finali spesso e volentieri deludono anche nei film, quindi figurati. Sì, nei libri anche, sì, sì. Esatto, quindi figurati in un videogioco dove comunque magari non sei esattamente ancora proprio un narratore, no? Cioè come professionista. E quindi ci sta, dai. Però comunque a me se sento dice. Comunque è un gioco che va giocato, perché io mi ricordo che comunque l'atmosfera e le tematiche erano abbastanza interessanti, insomma, quindi. Sì, sì, abbastanza inquietante, insomma, ci sono delle scene un po' così. Quindi no, è interessante assolutamente. Ok, ragazzi, finiamo con l'ultimo gioco che ho giocato da poco, in verità, qualche mese fa. E me lo sono, che lo volevo prendere, però in verità ce l'avevo su GOG perché l'avevamo regalato, infatti ho detto dai, è ottimo. E che non so se sei stato proprio te, Simone, a suggerirmelo, perché io avevo chiesto un gioco con la prospettiva isometrica e non so se sei stato te a suggerirmelo su Telegram, ed è stata una grande scoperta, signori, ossia Stasis. Ah sì, sì, sono stato io. Vedi, tu mi consigli sempre bene, sei una garanzia proprio. E questo, signore, è un gran gioco. Non capisco perché sia per lo più positiva. La gente non capisce niente. Perché, allora, ambientato in una navicella spaziale, partiamo dal presupposto che a me tutto ciò che è ambientato nello spazio tendenzialmente non piace, tranne qualche rara occasione, insomma. Quindi, quando io ho visto che questo era ambientato nello spazio, ho un po' storto il naso, perché dico, navicella spaziale, spazio, non è la location che preferisco, insomma. Però dalle immagini onestamente sembrava interessante, e poi ripeto, volevo fare un gioco con la visuale isometrica, che a me piacciono molto i giochi con la visuale isometrica, e poi me lo sono trovata lì su GOG, e dico, vabbè, c'è gioco. Oh, è stata veramente una gran scoperta, è stata veramente una bella esperienza, mi ci sono chiusa, dura abbastanza, insomma, non è brevissimo, però mi ci sono chiusa proprio, cioè, l'ho finito in qualche giorno perché mi ha preso tantissimo, bella l'atmosfera nella navicella, una navicella comunque in cui praticamente ci siamo più o meno solo noi, e quindi classica cosa che ti risvegli e devi scoprire che cosa è successo, perché nella navicella ci siamo solo noi, perché è tutto distrutto, cos'è successo qui, e quindi piano piano andando avanti nella storia, esplorando questa navicella, si scopre, leggendo vari diari che sono stati lasciati da chi stava prima sulla navicella, poi vabbè, ripeto, la cosa non è andata benissimo, e si scopre che cos'è successo, perché si è arrivati a questa distruzione su questa navicella. Quindi è molto interessante, gli enigmi sono fattibili, tranne un paio che è un po' odiato e a uno ho barato, perché ho dovuto guardarlo perché non riuscivo a farlo. E però interessante, ripeto, essendo una location che di solito a me non fa impazzire, l'ho apprezzato. E poi la grafica un po' del personaggio mi ricorda anche un po' Sanitarium, ovviamente fatto meglio perché è uscito dopo, e quindi anche questo, insomma, a me sembra un po' Sanitarium, lo meno Sanitarium è la mia seconda avventura grafica preferita in assoluto. E poi ho giocato a quello gratuito che c'è su Steam dopo Stasis, che però non mi ha fatto impazzire, anche se l'ho giocato tutto, è un po' più breve, ma non mi ha detto molto. E a breve uscirà il nuovo Stasis, quindi spero che sia bello come questo qui. Te, Simone, che dici di Stasis? Allora, beh, innanzitutto non ce ne so molte di avventure con la visuale in isometrico, e questa era la cosa che mi aveva colpito di più all'inizio. E poi chiaramente è un horror, perché bisogna dire che è un horror, a modo suo, sia psicologico che non. E che è anche un po' claustrofobico, perché cioè, comunque l'ambientazione, come dici te, insomma, è un'ambientazione di quelle senza via d'uscita, no? Su certi aspetti. E l'atmosfera, secondo me, fa tutto su sto gioco. E quella è la cosa che ti tiene incollato, un po' perché vuoi progredire, vuoi andare avanti, e un po' perché. E poi il gioco non è manco facilissimo. Cioè, nel senso, perché ci sono alcuni enigmi ambientali, chiamiamoli così. Quindi devi passare delle situazioni facendo delle cose in determinati tempi, quindi invece del solito puzzle magari che è, cioè magari devi salvarti da dei robot facendo un percorso, facendo, cioè, bene o male c'ha anche delle sue novità, ed è poi secondo me è costruita bene anche la lore, quindi l'ambientazione, insomma, tant'è che poi in quello che Kain, insomma, il secondo gioco, che poi in realtà è un gioco di raccordo tra il primo e il secondo, ma più che altro è una sorta di gioco omaggio che hanno messo lì, che dura poco, per dare ancora più enfasi, diciamo, alla questione della corporazione, no? Quindi insomma, della storia, quindi tutto sommato. che è una storia fantascientifica, ma prevalentemente una storia horror, di paura, insomma. Figo, a me è piaciuto tantissimo, devo dire la verità, mi ha tenuto come a te incollato per tantissimo tempo, e c'è un periodo che praticamente giocavo solo a quello fino a che non l'ho finito. È un po' ispirato Alien forse per certe cose, non perché c'è l'alien, ma proprio perché secondo me è un po' anche il finale, insomma, boh, non lo so, però è bello, secondo me merita di essere giocato, insomma. Poi sono passati tanti anni, però per essermi rimasto così impresso da dirti guarda, gioco veramente merita, poi c'è cioè, il suo aspetto drammatico ovviamente, secondo me merita, ecco, sì. Sì, sì, è stata veramente una bella scoperta, ti ringrazio insomma di avermelo suggerito, perché è stato veramente un bel gioco, mi è piaciuto tanto. Avevo provato con Inspi la demo di quello nuovo e onestamente entrambi siamo rimasti un po' però spero che insomma il gioco poi sarà bello, perché vorrei tanto uno Stasis 2 però come questo, insomma, capito, senza che si discostano troppo, perché dalla demo sembrava un po' diverso da questo, quindi speriamo bene, speriamo bene. Intanto guarda, do una buonanotte a Mattia, grazie mille di essere stato qui con noi, ti auguro una buonanotte, alla prossima. Guarda, io ti devo dire la verità, io sto giocando all'altro gioco che hanno fatto loro, che io quello l'ho interrotto, sai, mi sono stufata dopo un po'. Allora, l'ho trovato molto deludente. Sono rimasto deluso anche perché comunque per me da gente che ha fatto Stasis, cioè non puoi che aspettarti comunque una cosa positiva, magari non all'altezza, però non una caduta così nel paratro, insomma, diciamo così. Sì, no. Vabbè, poi la traduzione mi fa ridere, insomma, vabbè. Vabbè, a parte la traduzione che è fatta con Google, quindi con Google Translate, sì. A quel punto veramente quasi conviene metterlo in inglese. Ma poi la cosa brutta di questo gioco, che mo' mi ricordo come si chiama, ovviamente tu ti ricordi. Io, però se clicchi sul nome dello sviluppatore... sì, vediamo un attimo, ma non mi ricordo. E, Beautiful Desolation, che io avevo sempre gratis su GOG, per quello l'ho iniziato. Ho giocato anche abbastanza, però praticamente la cosa sola è che io ho messo italiano, poi dopo un po' quando ho visto che sentendo quando parlavano in inglese dicevano una cosa e tradotto non significava niente praticamente, dico vabbè, ho capito, lo metto in inglese. Non puoi cambiare lingua, cioè nel momento in cui tu giochi e selezioni la lingua ti tieni quella fino a fine gioco. No, vabbè, ho detto non è possibile. Devo dire che loro puntano tutto sull'atmosfera. Le atmosfere secondo me ci stanno in tutti e tre i giochi. Però poi alla fine, mentre Stasis t'ha tenuto col fiato sospeso, e Beautiful Desolation, no? Perché poi ci sono rimasto pure male, perché l'ho comprato proprio con cacchio, proprio non vedo l'ora di giocarlo, capito? Perché invece niente, grossa delusione. E quindi posso capire che magari, cioè, nel senso, non farei tanto affidamento su Stasis 2. Però Stasis quando uscì fece abbastanza clamore e poi dopo fu dimenticato come gioco, e invece secondo me è un gioco che merita di essere ogni tanto rinverdito, perché comunque è una piccola perletta che sta lì e merita veramente di essere giocato, e secondo me se ci giocate vedrete che va appassiona in qualche maniera, insomma, anche se poi sono tematiche che magari abbiamo rivisto anche in altri giochi, ma vabbè, insomma. Sì, no, però è vero, qui c'ha veramente tanta atmosfera qui a Stasis, assolutamente, su questa nave spaziale, insomma, c'è veramente tantissima atmosfera, cosa che in Beautiful Desolation, forse perché essendo più esplorabile, no, quindi disposti in vari posti, questi posti sono comunque molto all'aperto, secondo me non c'ha la stessa atmosfera che può avere un luogo chiuso e buio, distrutto, abbandonato, come può essere questa navicella qui, insomma, proprio un'atmosfera diversa, che però questa Desolation non è così beautiful secondo me. No, ma poi soprattutto perché su Stasis senti il pericolo imminente sempre, mentre che lì no, cioè lì non ce l'hai sta sensazione. No, c'è solo la Desolation, quindi non c'è la beautiful. Non c'è la beautiful, e quindi felice. Io infatti ero un po' insomma obbligata ad andare avanti, perché dico no, che cacchio, cioè, dai. E poi niente, una certa ho detto no, basta, non ce la posso fare, e l'ho abbandonato. Addio. Va bene, signori, io vi ringrazio di essere stati qui, noi siamo un po' come Cenerentola quando arriva la mezzanotte tutti a casa, e niente, io veramente ringrazio tantissimo di cuore Simone per essere stato qui con me, è stato veramente un onore averti qui. E no, mi ha fatto veramente tanto piacere averti sul canale, anche perché poi tu ne sai tanto, insomma, infatti stasera abbiamo visto che tu ne sapevi tantissimo, insomma, su vari sviluppatori, eccetera, sui videogiochi, quindi mi ha fatto veramente tanto piacere. E niente, quindi io ti dico, se ti va, possiamo fare dal 2016 al 2019 o 2020, insomma, come te pare. E la prossima volta, così vediamo l'altra metà, insomma, di questo decennio che oggi non abbiamo visto. Bene, sì, sì, si può concludere, anche perché poi così rimani, capito, col boccone mezzo masticato, insomma. Sì, capito, nel senso, manca una metà di questo decennio per vedere com'è andata poi questa evoluzione delle avventure, insomma, ci manca una metà. Fa un sunto finale, comunque. Ti ringrazio, no, a me mi fa piacere e mi farà piacere ovviamente ritornare. Poi a me, quando si chiacchiera, insomma, era tanto pure che non lo facevo, quindi mi veramente piacere anche solo aver ricevuto, insomma, l'invito. E detto questo, insomma, io quindi ti ringrazio e vi voglio tutti domani mattina alle 7 su rantemeredio.it. Voglio vedere che domattina alle 7 è un po' tragica. Infatti, però domani. Vedi, sabato mattina alle 8:30 ci sto sempre. Sabato mattina 8:30 va bene, 7 è un po' tragica, non lo so. No, vabbè, tante volte, cioè, nel senso, noi parecchie persone che magari ci dicono: ma come, io quando vado al lavoro alle 6 non c'è stagno, alle 6 ci posso mettere una replica, però alle 7 qualche volta, insomma, si può fare. Sì, sì, certo, fai compagnia a chi va al lavoro in macchina, fai compagnia, certo. E quindi, ragazzi, mi raccomando, tutti su Runtime Radio con Simone e tanti altri che sono veramente esperti di tanti argomenti differenti e sono molto divertenti e fanno tanta compagnia, a me fanno sempre tanta compagnia, insomma, faccio grandi risate, poi sono stata ospite più volte, mi sono divertita, quindi tutti su Runtime Radio, mi raccomando. Quindi notte a tutti, ragazzi, e ci si becca alla prossima. Grazie ancora a tutti di essere stati qui. Notte notte. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.